passare al bar prima di tornare a casa, a parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Nel continente nero, barabonzi bonzi bo, alle falde del Kilimangiaro, barabonzi bonzi bo, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti fatti. Beh, sai, caro Parenzo, la cosa che mi fa più pensare, anzi diciamo la verità, che mi fa più incazzare di questa vicenda della Tanzania e dei soldi, del finanziamento pubblico, sì, ai partiti, sì, spesi per investire in Tanzania. E sono finiti in Tanzania? Non è tanto, anziché restare in Padania. Non mi interessa la vicenda della Lega, dell'ipocrisia, della Tanzania, tutte queste cose qui, la Padania, perché non lascia. È il fatto che utilizzano dei soldi miei, certo, dei soldi miei. Poi certo, magari lo fanno anche altri partiti, non lo sappiamo come investono i soldi del finanziamento pubblico. Investono soldi miei, rimborsi elettorali, sì, che dovrebbero servire a pagare le sedi dei partiti, a fare attività politica. Li investono non in bot, no, in finanza in Tanzania. Speculazioni finanziarie. Vabbè, ma speculazioni, in attività finanziarie in Tanzania, dove magari sicuramente sono redditizie, non lo so, visti i precedenti della Lega. C'è da dubitarne, eh? Cari amici della Credi Euro Nord. No, vabbè, tanto per fare. Comunque, no, giusto, sono giusto d'accordo con lei. A Radio Padania oggi è successo. Ma siamo già che in onda? Sì, siamo già in onda con la Zanzara. E la Zanzara solita. Sì, solita cosa. 800 24 00 24. Sì. Il famoso Grazie conduttore. Grazie a Confindustria. Sono brave queste persone a Confindustria. Il solito conduttore, sì, di Radio Padania, il signor Siegel. Leo Siegel. Noto moderato Leo Siegel. Quello che ebbe quella querela con il signor Gadlerner sulla, sì, questione delle non ricordare Baeo, cose che riguardano i giornalisti. Baeo, col naso ad unco. Sì. Investimenti si facciano. Sì, lo so. Investimenti si facciano gli affari loro. In casa mia, del mio denaro, del mio patrimonio, ne faccio quello che mi pare e piace, inteso come movimento. Sicuramente non c'è nulla in individuale. Si facessero gli affaracci loro, che ne hanno tanto bisogno, senza andare a cacciare il naso negli affari di casa nostra. Voglio dire, nessuno di noi va a mettere il naso in Viale Monza per capire cosa ne fanno dei soldi i nostri ex alleati. Parlo di Milano, ovviamente, cavoli loro. Non sono affaracci vostri, perché, caro signor Siegel, sono i soldi del finanziamento pubblico. Certo. Si potrebbe anche dire qualche cosina, qualche parolina, trattandosi di quattrino nostro. Il sindaco di Roma Alemanno oggi si trovava, credo, se non sbaglio, ad Agorà, questa mattina, a battagliare con gli Ezzi della Lega. Ha detto una cosa interessante: meno male che questa alleanza con la Lega è finita, cioè non si ripresenterà mai più, secondo Alemanno. Sentiamo. Con la Lega bisogna tenere ormai due percorsi assolutamente distinti. Credo che la Lega abbia già dato il peggio di sé e stia continuando a darlo, quindi da questo punto di vista sono ben contento che la Lega vada da un'altra strada. Detto dal primo cittadino della città più indebitata d'Europa, direi che è un complimento e una medaglia che ci appendiamo. Sai bene che i debiti che non abbiamo, grazie, fatti noi, ma sai, grazie, bene che voi dovete smettere di insultare Roma. Alle falde del cibo. Smettetela di insultare Roma, dice Alemanno, il quale poi ha parlato anche della vicenda dei taxi, che è molto calda, come sapete, molto calda. Si aspetta questo decreto del governo sulla cosiddetta liberalizzazione. Alemanno dice: il rischio dei tassisti, perché è un mestiere che potrebbe portare al suicidio. No, sì, sì. Suicidio di massa, addirittura. Bah, sentiamo. Il tema della liberalizzazione è un tema che comprende tutti, è un sacco che si mette tutto, dalle grandi banche, l'assicurazione, si vuole mettere anche quei poveracci dei tassisti. Ora, cioè, io non voglio che il taxi del futuro sia il taxi tipo quelli negli Stati Uniti, a New York, dove in tutti i film americani uno prima di suicidarsi fa il tassista come ultimo stadio della sua disperazione. Sta pensando a Taxi Driver. Esatto, no, e a tanti altri film, e poi si suicida. Ecco, non vorrei che fosse questo. Beh, adesso, per carità, insomma, ci sono tanti argomenti, però forse il suicidio mi pare un po' troppo. No, ma chi l'ha detto, soprattutto, che i tassisti americani cioè prima di buttarsi dal grattacielo, che ne so, faremo un'indagine negli Stati Uniti per capire se il sindaco di Roma ha detto una cosa corretta oppure no. E abbiamo già un ospite collegato, ci colleghiamo, sì, andiamo subito da lui, però lei prima voglio farti sentire quello che ha detto, e io mi inchino, il signor Marchionne. Sai, sì, che io ho il mito di Marchionne, sì, no? Questo nuovo look non mi piace, la barba. Ti piace? Sembra un po' un barbone, Un po' Mago Merlino, no, con la barba meno lunga. lunga, il Marco Merlino delle macchine. C'è già il maglione, dice pure la barba, poi sembra, sì, brutto, vabbè. Sembra brutto. Comunque, Marchionne dice: in Italia non si investe per colpa soprattutto dei sindacati. Il problema non è Marchionne, non è la FIA da nessun altro, no? Lei vada a guardare quanti fondi stranieri vengono a investire nel paese, cioè quanta gente entra in Italia per investire. E cosa deve fare l'Italia? Si deve aprire al mondo intero, deve smettere di chiudersi in se stessa, non può andare avanti così, non può dire no a tutto, questo non lo facciamo, quello c'è la storia, quello è impossibile. Stiamo trascinando una storia che non ci aiuterà molto, no? Cerchiamo di guardare il futuro è molto più interessante del passato. Il passato lo capisco, però non ci posso vivere. Lanza titolava: in Italia non si investe a causa dei sindacati. Esatto, come si fa ad incoraggiare investimenti stranieri in Italia con i continui ostacoli che le parti sociali pongono alle imprese che vogliono fare impresa? Ma insomma, che ostacoli ha avuto lui a Pomigliano? Che ostacoli hai avuto, Sergio? E ti abbraccio, mi fermo. Renata Polverini, buonasera. Buonasera, come buonasera sta? A voi. Ma come dov'è? Sta? Grazie. Ma dov'è? Non la vedo fisicamente in studio. Eh no, non è a Roma. Vabbè, siamo... già è radio, no? È radio, tu sei sempre alla. Ma dov'è lei? Lì all'EUR, cioè alla no, sede della regione. Ma non sai niente, tu non sai niente. Dove? La sede della regione. Purtroppo vengo dalla fiaccolata a Torpignattara, quindi abbiamo avuto un momento molto difficile. Adesso sono rientrata, però. Fiaccolata a Torpignattara per la decisione di la piccola gioia e suo padre. Certo. Senta, le voglio chiedere una cosa. Ma bisognerebbe cambiare tono sull'immigrazione, non lo dico solo a lei, Polverino, dico solo no, ma io l'ho già cambiato da tanti anni, nel senso che ho avuto sempre un tono, sì, lei lo diciamo, so, un po' stonato rispetto alla coalizione. Bisogna dire subito grazie ai immigrati. Nel mio governo. Senta, ma anche lei è contenta che questa alleanza con la Lega per il momento non ci sia più come il sindaco di Roma? Ma guardi, io diciamo lo sono un po' meno, anche perché ho dei colleghi della Lega, in particolare Zaia e Cota, che con i quali ho un ottimo rapporto e quindi sinceramente ho una visione diversa della Lega se guardo a loro. Sì. Poi se guardo all'atteggiamento che molto spesso, troppo spesso, alcuni parlamentari, per fortuna non tutti, hanno nei confronti di Roma o comunque di una parte del paese, è chiaro che sono molto molto perplessa e a volte anche preoccupata. Anche Bossi però non è che le manda a dire su Roma, oppure... No, esatto, diciamo che Bossi negli anni ci ha abituato a sentirlo dire tutto e il contrario di tutto. Noi abbiamo anche tentato con alcuni momenti, come dire, abbastanza difficili comunque di superare queste divisioni. Ora è chiaro che l'atteggiamento della Lega, da quando non sostiene più il governo che invece sostiene il PDL, è completamente mutato, quindi si è come il famoso patto, quel famoso patto che ci fu con lei, no, della che avete mangiato, che avete mangiato poi, la coda, la macinata, diciamo che noi avremmo dovuto mangiare la polenta e loro la pagliata, e la pagliata, sì, eccetera, ma è tutto poi finito ormai, è durato poco, sì, mi pare che è durato finito. Poco ho visto anche a parte oggi, insomma, dunque lei però dice Alemanno sbaglia quando dice che ormai tu cioè ormai è meglio tenere la Lega in disparte, ma insomma, no? In politica a me hanno insegnato, insomma, che non si dice mai dire mai la parola fine, esatto, perché poi troppo spesso ci dobbiamo rimangiare, se no posizioni troppo nette. Certo, in questo momento essere sindaco di Roma, che è continuamente attaccata dalla Lega, può creare qualche problema in più. Senta, non la colpisce questa vicenda dei soldi del finanziamento pubblico della Lega in particolare, però sì, magari succede anche ad altri partiti, investiti addirittura in Tanzania oltre che a Cipro e Norvegia. Sì, diciamo che questa cosa ha colpito un po' tutti, soprattutto ha colpito perché viene dalla Lega, che da sempre, no, cerca in qualche modo di essere o comunque di rappresentare il partito rigore, antispreco, dove tutto è al servizio dei cittadini. Poi alla fine ci accorgiamo che magari ha abitudini molto simili a partiti che invece in qualche modo ha contrastato, ma questo è un capitolo insomma un po' particolare. Forse bisogna tutti quanti riprendere un po' il pallino della politica, ecco, e rimettersi un po' sul nostro territorio, ecco, ma lo scandalo è i finanziamenti per questo. Esatto, lo scandalo è prendere i soldi del finanziamento pubblico e investirli in Tanzania, oppure c'è anche ipocrisia sia per il fatto che la Lega dice sempre investire in Padania e poi magari i soldi... No, secondo me entrambe, insomma, no, perché comunque il finanziamento dovrebbe garantire comunque una rete, una tenuta del partito sul territorio. Io lo cancellerei il finanziamento pubblico. Si rivolgono ai partiti o comunque dovrebbero rivolgersi rivolgersi. Dopodiché, ripeto, detto dalla Lega, che invece sembra che vede la Padania come il centro del mondo e nient'altro, è chiaro che smaschera un po' questo atteggiamento che sembra appunto ipocrita. Senta, ma con Maroni, con la Lega magari presa che chissà quando, eccetera, in mano da Maroni, potrebbe cambiare? Guardi, io le dico la verità, ho avuto modo di apprezzare Maroni da ministro del lavoro, io all'epoca mi occupavo di sindacato, ho avuto modo di apprezzarlo adesso da presidente della regione rispetto al governo Berlusconi come ministro dell'interno, mi pare comunque un po' diverso rispetto a molti suoi colleghi della Lega. Potrebbe essere sicuramente una persona che riavvicina, anche se in questo momento anche lui assume un atteggiamento un pochino più distante, ma questo fa parte, come la dire, politica, quello politica, che ha detto lei, esatto. La politica. Il futuro è Maroni, meglio Maroni, insomma, meglio Maroni di Bossi, ecco. Questo è il leghista, diciamo, con il quale è più facile dialogare, certo. A mio avviso. Senta, certo. Anche lei è convinta che la liberalizzazione dei taxi come il sindaco di Roma è un disastro per i lavoratori, eccetera? Dica qualcosa. Guardi, di chiaro su io, questo. Io, come tutti ricorderanno, quando i tassisti occuparono Piazza Venezia qualche anno fa, feci in modo allora da sindacalista in qualche modo di garantire da un lato, come dire, le licenze che comunque erano necessarie e che il sindaco voleva aumentare, dall'altro evitare che ci fosse un numero di licenze talmente forte e così impattante da mettere in difficoltà i tassisti. Quindi troviamo hanno già dato i tassisti. No, secondo io me. Dico che bisogna trovare un equilibrio anche in questo. Vabbè, però adesso non mi sia generica, cioè c'è bisogno di liberalizzare il settore ancora oppure le tariffe, bisogna liberalizzare? Io mi metto dalla parte dei tassisti e quindi capisco che loro immaginano che con troppe licenze lavorano di meno. In realtà loro devono anche comprendere che con più licenze e quindi una maggiore offerta sul territorio probabilmente si lavora di più. Cioè noi non riusciamo a capire che il tassì può diventare un mezzo pubblico e non soltanto dedicato a chi in questo momento può permetterselo, ma deve diventare un mezzo pubblico che tutti in qualche modo possono prendere al volo, un po' come succede in tanti paesi, non soltanto negli Stati Uniti, a Berlino. Cioè. Ecco, ma è interessante questo perché lei dice bisogna parlarci, bisogna in qualche modo far capire che l'aumento delle licenze può essere un vantaggio anche per loro. Può essere un vantaggio anche per ecco, loro. Ecco, ma guardi, a Roma però dire queste cose. È vero o no? Mi rivolgo al governatore del Lazio. Qualche volta è pericoloso, perché l'atteggiamento di alcuni capi popolo, per carità, io rispetto tutti. Alemanno ha vinto grazie ai tassisti, no? Anche Alessi Polverini. I tassisti hanno fatto campagna elettorale, lo sanno tutti, ma il sindaco non l'ha mai nascosto, e nemmeno loro. Devo dire che purtroppo quando si parla in generale di liberalizzazioni in questo paese si alzano tutti gli scudi possibili e immaginabili. I tassisti naturalmente sono persone che vivono nel territorio, che hanno un rapporto molto diretto con la clientela, e quindi come categoria per chi fa politica è chiaro che sono, se mi posso permettere di dirlo, appetibili, no? E quindi è evidente. Però lei non liscia troppo il pelo ai tassisti, mi sembra, anche dicendo che devono capire che l'aumento. No, perché io, guardi, allora l'ho fatto e voglio dire, all'epoca Veltroni riuscì a mettere in campo 500 licenze che erano comunque un numero sufficiente, ma che in qualche modo garantiva anche i tassisti. Io penso che sono persone sufficientemente mature per fare una trattativa vera e comunque arrivare da un lato a dare comunque una maggiore offerta ai clienti. Dunque più licenze. È chiaro che Roma è una capitale, no? E quindi è evidente che non è concepibile che si aspetta il tassì magari per troppo tempo. E al tempo stesso garantire comunque che alcuni diritti, a cominciare dalla necessità che ciascuno di loro abbia un reddito che gli consenta di vivere, vengano garantiti. Bene. Poi alla fine si tratta di fare questo. Io forse la mia anima di sindacalista viene sempre fuori. Bisogna trovare un compromesso, tenendo conto che però c'è trattativa, se qualcosa bisogna cedere da entrambe le parti. Nel continente nero. Beh, sul web sono scatenati, caro Parenzo, soprattutto sul gioco Tanzania-Lega. Sul gioco Tanzania-Lega sono scatenati sul web, sono scatenati. La migliore, lancio qua quasi un sondaggio. La più bella è Padania ladrona, la Tanzania non perdona. Questa non è male, però poi i leghisti sanno dove la la Tanzania. Piacerebbe chiamare un deputato a caso e chiedergli la capitale. Questa è buona, questo è un gioco. La capitale della Tanzania. La capitale della Tanzania. E dove si trova? Però se lo dici così si informano. Eh? Chiamiamo qualcuno, si informano subito. Ma perché ascolta, non bisogna dirlo, non devi dirlo. Sbagli tutto. Ma tanto ci cascano comunque. Senta, Marchionne vestito un po' da barbone che dice quelle cose sul sindacato che blocca tutto. Le piace oppure ne? Oppure no? Allora, intanto mi pare che la barba lo invecchia, quindi se posso dargli un consiglio. Ecco, io un consiglio, lei che ultimamente. Io lo conosco e devo dire che lo invecchia molto. Sul sindacato, per carità, cioè non voglio dire, io poi ho fatto parte per 27 anni di quel mondo, e quindi è chiaro che non dirò mai che il sindacato blocca. Però ha ragione lui un po'. È uno degli elementi che probabilmente fa fatica a rinnovarsi, dopodiché ci sono tante altre questioni per cui i nostri territori non sono attrattivi, no? E sono le danze, sbaglia a concentrarsi del nero. Sì, certo. Sì, sbaglia a concentrarsi sul sindacato. Tra l'altro Marchionne ha fatto cose, voglio dire, che io considero molto gravi sul piano della rappresentanza nel nostro paese, perché ha fatto uscire Fiat da Confindustria, ha rotto un po' uno schema consolidato di rapporti. Se poi va in maniera così frontale ancora sul sindacato, mi pare che poi diventa un po' accanimento terapeutico, accanimento, no? Contro il sindacato. Senta una cosa, ma volevi fare una domanda su Cortina? Io volevo sapere se la GDF, la Guardia di Finanza, decidesse di fare un bel blitz tipo a Sabaudia o al Circeo quest'estate, lei contenta? Sarebbe lì ad applaudire? GDF, guardi, avanti io tutta? Per quelli che sono i miei strumenti, quelli della regione, stiamo facendo anche noi il massimo possibile per arrivare a catturare quanti più contributi che in ogni caso si cercano di evadere. Credo che quello è un gesto, diciamo, più che altro simbolico. Io condivido questo dal punto di vista comunicativo per far capire a chi oggi in qualche modo paga troppe tasse, certo, che si sta cercando di andare a... La sentiamo molto male, adesso proviamo a ricollegarci perché la sentiamo metallica, polverini metallica. Comunque hai capito, GDF avanti tutta. Questa però adesso proviamo a ricollegarci. Intanto Anna da Messina. Anna da Messina. Signora Anna da Messina. Anna, tra l'altro, è un nome palindromo. Anna, dica. Anna è un nome palindromo perché si può leggere in due modi. Cioè, Anna è un nome palindromo. Comunque, vabbè, carità, voglio dire, questa è una cosa clamorosa. Non è una cosa clamorosa, comunque. No, che si signora può leggere... Anna, prego. Sai cosa vuol dire palindromo? Io volevo parlare dell'argomento che avete affrontato. Signora Anna, un attimo solo perché dobbiamo concludere con il governatore dell'Lazio. Forse la sentiamo meglio. Ma governatore o governatrice bisogna chiamarla? Lei ama più governatore o governatrice? Presidente. Non esistono i governatori. Vabbè, quello è un modo di... tutti presidenti. O presidentessa. Senta, da tifosa della Roma, non so quanto tiepida o quanto accanita, anche se poi una volta è stata pure in curva della Lazio, esatto, atteggiamento che io ho criticato moltissimo, tra l'altro, perché non bisogna mai mischiarsi ai tifosi delle curve, ma lasciamo perdere. Lei che posizione ha? Qualcosa al signor De Rossi, che sta per rinnovare il contratto con la Roma. Dovrebbe rinnovare il contratto con la Roma, ma non si sa. Guardi, io non dico niente a nessuno perché non mi voglio nemmeno, cioè non mi voglio occupare anche di calcio. Lanci un appello. Mi occupo di tante cose. Mi auguro che tutte le squadre della nostra regione possano avere le migliori formazioni. Questa è una veltronata. È una veltronata questa. Ma che fa, Polverini? Con il calcio non si scherza. Appunto. Come sta a fare, veltronata? Caro De Rossi, resta a Roma. Dillo, teniamocelo. No, ma lo dica lui, caro De Rossi, resti. Caro De Rossi, rimanga a Roma. Non fa niente di meglio della Roma. C'è il cose, ma anche va a fare a Manchester. Si dico un po', Manchester è una tristezza infinita. No, per carità, poi c'è la nebbia, ma scherziamo, qui c'è un sole bellissimo. Piove da morire a Manchester, piove tutto l'anno. Senta, Polverini, il signor, oltre al calcio, è importantissimo. Insomma, il signor Cosentino, io volevo sapere. Se lei fosse in Parlamento, voterebbe per l'arresto di Cosentino? Adesso non mi dica, non conosco le carte. Questa è una bella domanda, devo dire che... Io in questo momento sono contenta di non esserci, nel senso che è una decisione molto forte. Però è chiaro che le cose che leggiamo in qualche sono modo gravissime. Ci fanno riflettere. Io non credo nemmeno che noi possiamo continuare a considerarci tutti uguali. Cioè lei appartiene allo stesso partito di Cosentino, questo è il dato, no? Beh, insomma, diciamo che oggi i partiti sono talmente grandi, almeno i due, PDL e PD, che all'interno c'è dentro di tutto. Questo fa parte un po' della, diciamo, del volere andare assolutamente verso i partiti grandi, no? Quindi c'è dentro di tutto. Però, se lei fosse in Parlamento, voterebbe per l'arresto di Cosentino. Il PDL, lei sa benissimo che ci sono anime che si sono espresse diciamo in maniera molto chiara riguardo a Cosentino in tempi non sospetti, vorrei ricordare. E lei è una di quelle che dice fossi in Parlamento voterei sicuramente. Io sono molto preoccupata perché, ripeto, le cose che abbiamo visto sono cose pesanti. Voterebbe per l'arresto a Cosentino. Comunque che ci sia, come dire, che la giustizia possa dirci qual è la verità. Senta una cosa, ma questa vicenda dei vitalizi, in conclusione, innanzitutto due cose velocemente. Primo, se si pente di quella storia dell'elicottero alla festa del peperoncino. Ma guarda, io già l'ho detto e non l'ho più nemmeno ripreso. Io ho fatto un gesto in buona fede, peraltro avendo pagato un servizio. Dopodiché ho visto che si è scatenato l'inferno e ho detto va bene, pazienza, basta, ho sbagliato e finita, insomma. Se ce la faccio ad arrivare, arrivo, e se non ce la faccio, non arrivo. Ma non prenderò mai più un elicottero per una cosa di questo tipo. Ma no, assolutamente. Ripeto, io poi mi ero lasciata convincere lì dagli organizzatori perché non avevo il tempo di andare, non pensavo di scatenare il finito. Tra l'altro, ripeto, era una cosa che non era assolutamente pagata. E invece gli assessori esterni, non è stata una cosa, per carità, poi vi so che gli assessori esterni, il vitalizio agli assessori esterni in questo periodo in tutte le regioni, questo non è un buon motivo, noi però abbiamo fatto la stessa cosa che hanno fatto le altre regioni abolendo i vitalizi come hanno fatto tutti. Sì, ma se ce l'hanno tutti è normale che sia scatenata la polemica. Dopodiché, no? Lei sa benissimo che gli assessori hanno grandi stabilità, che sono persone che comunque interrompono l'attività lavorativa per mettersi, quindi è giusto, è come un risarcimento, insomma. Io come sono ovviamente è come un risarcimento, è come dire una compensazione. Loro si pagano il loro contributo. Beh, sì, certo che pagano, ci mancherà. Anche l'idea, esatto, che è a carico, no, è a carico, quindi loro, è una forma di compensazione. Beh, insomma, sono persone che comunque lavorano 24 ore al giorno, che hanno responsabilità enormi. Il Consiglio ha fatto questa scelta. E lei non si pente per niente di averla, come dire, di averla appoggiata questa scelta? Credo, perché conosco il lavoro dei miei assessori, conosco le regole del nostro paese e quindi anche degli altri consigli, e quindi l'ho fatto e non se ne pente. Insomma. Va bene, grazie. Salice, salice. Prima tu hai fatto vedere quella scritta sulla Sardegna, che è la regione dove ci sono meno bambini. Sì. Sì, ma perché? Ecco, c'è un motivo. Io penso che molti pastori preferiscono, ma l'hanno detto, anzi lo attribuisco a te. Grazie. Abbiano delle relazioni con le pecore, quindi per sfuggire all'impegno. Paolo Villaggio, un mito assoluto. I sardi se la sono presa moltissimo. Ma scherzava. I tantissimi sardi che ci ascoltano, tra l'altro. Salutiamo e abbracciamo. Ma ti rendi conto? Ma stava scherzando, ma è Paolo Villaggio, non è Cicchitto. Perché in Sardegna? No, ma non stava scherzando, secondo me. Sì, ma senti che ride anche. Cioè, sì, ride, è però un comico. Però il governatore della Sardegna si è arrabbiato moltissimo. Non ha altro da fare, signor governatore. Cappellacci, il signor Cappellacci. Non ha altro da fare che prendere una dichiarazione del signor Villaggio, che ripeto è un comico e non è Cicchitto, anche se alle volte fa più ridere il Cicchitto di Villaggio, e fare dichiarazioni su una roba che lui ha detto a brontolo su Rai 3 dal signor Bea. Beh, Cappellacci, beh, ed è la pecora sarda questa. Risentiamo Villaggio. Prima tu hai fatto vedere quella scritta sulla Sardegna, che è la regione dove ci sono meno bambini. Sì. Sì, ma perché? Ecco, c'è un motivo. Io penso che molti pastori preferiscono, ma l'hanno detto, anzi lo attribuisco a te. Grazie. Abbiano delle relazioni con le pecore, quindi per sfuggire all'impegno. Va bene. Ma è evidente, ride però, anche. Dice, lo attribuisco a te, c'è Oliviero Bea che ride. Aveva detto ma anche di che parliamo? Cappellacci, occupati della Sardegna, non delle battute di Villaggio. Cappellacci, ti voglio bene. Te la sei presa con Cappellacci. Ma sì, perché la Sardegna, io l'adoro la Sardegna, la abbraccio tutta fortissimo. Ma perché Cappellacci si deve occupare di questo? Ma ricordiamoci i grandi scrittori sardi, padre padrone, i grandi uomini che hanno popolato la Sardegna. Ma cosa c'entra, scusa? Non lo so, non c'entra nulla, però voglio dire, adesso stiamo qui a Cappellacci. Non devi discutere di villaggio, Cappellacci. Cappellacci governi la Sardegna. Va bene, d'accordo. Ho visto branchi di vedove felicissime sulle crociere. Sempre villaggio, perché villaggio ha questa tecnica anche con i friulani, sì. No? Ti ricordi quando disse. Ma è una battuta. Quando disse. Però là non ti sei scagliato contro il governatore Tondo all'epoca che se l'ha presa? Ma no, come mai? Ma sì, anche lì possiamo dire uguale a signor Tondo. Dico, gli ho detto non si offenda così, non se la prenda. Va su. Bene, villaggio. Facevo l'entertainer, cioè l'animatore a bordo delle navi, malissimo peraltro. I passeggeri, uomini, erano di una noia mortale. C'erano dei branchi di vedove. Ma non branchi scopano, addirittura? Non scoprono più quelle vedove. Ma finalmente si sono liberate. Le donne verso i 70 anni il più delle volte diventano vedove. Come? A mio avviso forse si vogliono liberare inconsciamente di rompicoglioni come i mariti. È a ruota libera, è totalmente a ruota libera, villaggio. Giovani donne preferiscono rapporti con le donne. Questo ritorna sulla Sardegna, qual è? Sempre la Sardegna, di che sta parlando? Le donne adesso, soprattutto le giovani donne, preferiscono avere dei rapporti con delle giovani amiche, perché le giovani amiche conoscono perfettamente l'erotismo, mentre certi facchini che non si lavano mai e che hanno in casa è gente veramente abominevole, perché io passano il pomeriggio a cercare di scare il culo alla, sì, alla segretaria, tornano a casa, sì, e si siedono e dicono: Franca, portami quel pianoforte al settimo piano. Quindi sai, delle cose abbastanza imbarazzanti. Parità. Giovani donne preferiscono rapporti con le donne. È fortissimo Bea che quando Villaggio dice a leccare il culo ci si tanto per usare una metafora, vero? Grandioso, ma va bene così. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Si dimette il sottosegretario Malinconico, i suoi soggiorni in un hotel di lusso pagati da un imprenditore della cricca, Monti, gesto di responsabilità. La giunta per le autorizzazioni della Camera vota per l'arresto dell'ex sottosegretario PDL Cosentino, decisivo il sì della Lega, ora deciderà l'Aula. L'agenzia di rating Fitch avverte l'Italia, possibile un nuovo declassamento, ma la borsa sale, Unicredit recupera, domani Monti dalla Merkel. Liberalizzazione, il governo accelera, obiettivo più mercato e concorrenza per notai, farmacie, carburanti, taxi e prezzi più bassi per i consumatori. Da domani la Corte Costituzionale è riunita per valutare l'ammissibilità del referendum, presto la decisione, Alfano comunque ci vuole un'altra legge. Fiori, candele e slogan per chiedere più sicurezza e migliaia al corteo di solidarietà con la famiglia cinese colpita dal duplice omicidio di Roma. Via il processo per l'omicidio di Sara Scazzi, lo zio Michele vicino alla cella della figlia e della moglie, le lacrime di Sabrina, la Corte sì alle TV. Da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Goodbye Malinconico, come avevamo previsto ieri, certo. Caro Parenzo. E anche auspicato. Io almeno. Sì, tu avevi auspicato le dimissioni di Carlo Malinconico. Bella questa sigletta, fammela sentire che mi fa gode questa sigletta. Questa è Goodbye Malinconia. Goodbye, sì, Malinconia. Però si adatta bene al signor Malinconico si è dimesso e Rotondi lo difende, il signor Rotondi. Rotondi? Eh sì, il solito. Quando tu vuoi uno, esatto. Quando tu vuoi uno che difende delle cose impossibili, chi cazzo chiama? Ma chiamiamo Rotondi, vedrai che difende. Io tra un integerrimo funzionario dello Stato e un signore che fa dichiarazioni a un giudice, tendenzialmente credo al primo. Cervelli in fuga, capitali in fuga, migranti in fuga, da bagno asciuga. Terra di santi, subito e sangue. Va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene, grande forma. Di Pietro vogliamo 100 cortine al giorno. Che sarà mai? Beh, non è sbagliato. Pietro. Rispetto a un cortina, noi vogliamo 100 cortine al giorno. Perché se fai solo cortina, già allora non vado più a cortina. Se tutta cortina, vedrai che alla fine chi c'ha il motoscafo da 20 metri e c'ha 20.000 euro ci pensa due volte come sta la situazione. Da qua se ne vanno tutti. Bravo, giusto. Bene, bene, bene, siamo qui. Io vorrei far risentire però Alemanno sul presuicidio e anche la stessa Polverini, sì, ha detto, sì, beh, insomma, sì. Mi sembra un po' esagerato. Alemanno, il rischio dei tassisti se vengono liberalizzate le licenze e di arrivare al suicidio come succede in America. Ma non risulta che tra i tassisti americani non ho mai sentito un alto tasso di suicidio? Lui sostiene, il signor Alemanno sostiene che quando uno fa il tassista che il, come dire, il prodromo al suicidio, sì, perché è un lavoro talmente disperante come fatto in America, evidentemente, dunque devi lavorare anche di notte per lavorare per guadagnare, secondo Alemanno, che alla fine ti suicidi, che alla fine ti ammazzi. Il tema della liberalizzazione è un tema che comprende tutti, si vede un sacco, così mette tutto, dalle grandi banche, l'assicurazione, si vuole mettere anche quei poveracci dei tassisti. Ora, cioè, io non voglio che il taxi del futuro sia il taxi tipo quelli negli Stati Uniti, a New York, dove in tutti i film americani uno prima di suicidarsi fa il tassista come ultimo stadio della sua disperazione. Sta pensando a Taxi Driver. Esatto, no, e a tanti altri film, e poi si suicida. Ecco, non vorrei che fosse questo. E siamo qui 800 24 24. Ma che ne so, Anna da Messina era in collegamento con noi, prima l'abbiamo interrotta. Prego, signora Anna. Buonasera, senta, io volevo ricollegarmi al discorso di ieri sera. Lei ha massacrato quel povero assessore di Lecce, l'ha massacrato, l'ha fustigato. Beh, fustigato, secondo abbiamo chiesto conto di alcune domande, abbiamo fatto domande. Oggi ne abbiamo un altro, oggi ne abbiamo un altro. Quel povero uomo che si è messo a tappetino non si doveva dimettere, doveva mantenere e difendere la sua linea. Ha fatto un complimento a Vendola chiamandolo signorina, perché ecco, se Vendola ha dichiarato di essere gay è ben contento di sentirsi chiamare signorina. Ora non vedo perché quel poveraccio di assessore si è dovuto dimettere, ha dovuto chiedere scusa, ha dovuto subire le sue fustigazioni. Io proprio non l'accetto. Scusi, perché dovrebbe avere ragione il signor Ripa a dare della signorina al signor Vendola, che tra l'altro perché vabbè, lasciamo perdere. È gay, Vendola. Allora, e quindi è una signorina. C'entra? E allora è una signorina. È contento di sentirsi chiamare signorina, secondo me. Perché se no non diceva di essere gay. Scusi. No, ma questa è l'ora in cui chiamano dagli ospedali. Comunque, prego. Dalle corsie. Lei non chiama da un ospedale, no. Sì. Sono rimasta malissimo che quel povero assessore sia dovuto rimettere, ha dovuto chiedere scusa. Ma lei sta scherzando o sta parlando sul serio? No, sto parlando sul serio. Questo è grave. Ha dovuto subire lei, l'ha massacrato, l'ha fustigato. La tortura di Cruciani. Io non sono contro i gay, non sono contro nessuno. Però se quello ha detto, no. Però le fanno un po' schifo, diciamo, no? No, assolutamente no. Ma Vendola si è dichiarato gay. Ma che c'entra, questo? Non importa, è contento, penso, di essere. Ma è chiamato signorina, è contento di essere. Grazie, signor Anna. Di essere schernito. Walter ci chiama da Roma, sentiamo, Walters. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Guardi, io ho dei punti interrogativi che... Ha dei punti interrogativi, sì. Sì, che esatto, punti interrogativi su di lei soprattutto, Cruciani, perché ultimamente vedo che fa giornalista ma non prende dati. Cioè, non quando la dati. Gente... Sì, esatto, quando la gente le comunica dei dati, lei dà per scontato che questi siano veri. Cioè, la Polverini le ha detto circa 20 minuti fa, mezz'ora fa, che sono aumentati soltanto di 500. Mentre erano 2000, credo, sono 2000, no? Sono circa 3000, circa 2000, non però mi... quello che io volevo dire, poi, sì, ma amico, ho detto la Polverini, adesso non mi ricordo, l'ho controllato dopo, non è che sul momento mi ricordo di quante licenze sono aumentate i taxi a Roma con Beltroni qualche anno fa, non me lo ricordavo. Benissimo, ma non è questo il punto, non c'è mai un punto con lei, e questo è fondamentale. Poi parla di suicidio e dice che non è possibile una cosa del genere. Io le dico una cosa, non lei fa il tassista? Io faccio esattamente il tassista. Ah no, per capire, perché sennò sembra che parliamo. Io le faccio capire tutto, contrariamente a quello che perché se la prende con me? Se la prenda con la Polverini, che ha detto che le licenze vanno aumentate. Io non è che l'ho detto io, l'ha detto la signora Polverini. Perché lei fa della facile ironia. Ma io non faccio nessuna ironia, ma questa cosa è suicidio. Ma questo altro che ironia, questa è una cosa ridicola. Glielo dimostro io con tre parole. Quando una persona perde il lavoro e magari si è impegnata con un mutuo, ma questo può accadere a tutti, non ai tassisti. Non solo ai tassisti, scusi. E anche loro, infatti anche altra gente grava in situazioni difficili. Ho capito, però ma non per questo, ci deve gravare tutto il paese. Quindi è giusto che uno difenda il proprio lavoro, la propria famiglia. Ma io non dico niente, Walter, no, non lo ritengo stupido per niente, ognuno fa quello che vuole, fa la battaglia che vuole, nel rispetto naturalmente della legge e soprattutto nel rispetto delle varie competenze. C'è qualcuno che dice come deve essere organizzato il lavoro dei taxi in una città, e questa cosa spetta, naturalmente sentendo anche i tassisti, spetta ai comuni. comuni, alle regioni, forse anche, allo Stato. Comunque le dico una cosa, lei se la sta prendendo con me, che sì, su questa vicenda qua non ho una posizione precisa, anzi ho detto più volte che bisogna anche difendere questa storia del valore della licenza in qualche modo finché non si esaurisce. Va difesa, io. Walter, però io dico una cosa, chi ha detto che bisogna aumentare le licenze non è il sottoscritto, è la signora Polverini qualche minuto fa, ha detto i tassisti bisogna che capiscano che con più licenze guadagneranno di più perché ci sarà più lavoro, questo tutti. Ha detto lei. Perché che fa? Prende più volte il tassi? E che ne so, questo lo dica la Polverini, mica lo dice a me. No, però io a lei dico un'altra cosa e voglio chiudere. Sul suicidio è una cosa ridicola, abbia pazienza. Il su suicidio questo non è ridicolo. È un'iperbole. Si è impegnato che sapendo che avrebbe guadagnato 1500 euro e di punto in bianco ne guadagna 600. Ma perché quelli che pensavano di andare in pensione prima e invece devono andare dopo non è la stessa cosa? Qualcuno... Ma però hanno uno stipendio per poter sfamare i figli. Guardi, sono tutte teorie che uno guadagna di meno con più licenza, non sta scritto da nessuna parte, non è scritto, è dimostrabile da che cosa? Altri possono dimostrare il contrario. Il fatto che dopo 12 anni di servizio ne capirò qualcosina in più io di lei o no? Ma che vuol dire? Ma lei ragiona anche qui per teorie, cioè ragiono per teorie, sto dicendo che secondo un criterio logico è il comune che si deve occupare. Ma questo è un altro discorso. Abbiamo la borsa, torniamo subito. Eccoci qui, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta la Zanzara. Ciao Malinconico. Walter, ciao. Vuole continuare, vuole chiudere? Ciao. No, voglio dire soltanto una cosa, lei ultimamente è troppo superficiale, Cruciani, e questo non fa bene. Sì, però parli un attimo solo, Walter, resti chi qui. È? Mi stai chiamando? Pronto? Professor Bruno? Sì. Buonasera, sono Cruciani, come sta? Parenzo, buonasera, professore. Sono Cruciani, la Zanzara, c'è anche Parenzo. Buonasera, professore. Grande, professore. Grande lottatore, professor Bruno. Tutto bene? Pronto? Sì, la disturbiamo? No, mi dica. Io la seguo dai tempi di Porta a Porta, professore. No, io lo dico così come. Senta, professore, è apparsa una sua intervista sul sito Pontifex, in cui lei ribadisce alcuni concetti, sa, dopo la polemica che c'è stata sull'assessore a Lecce, no? Qui lei ribadisce alcuni concetti che lei più volte ha espresso sugli omosessuali. Dipende, io ho espresso dei concetti che non sono quelli che poi sono stati distorti. Qui c'è scritto, io rimango della mia idea, le denuncio, gli esposti dei gay non mi fanno paura, l'omosessualità è una malattia, dice lei, no? Ma non l'ho mai detto questo, io non ho mai parlato di malattia. Quindi. Non ha mai parlato di malattia? No. E di che cosa? Io non ho mai parlato che secondo me è una condizione di non normalità. Cioè di anormalità. Normalità sì, ma sotto il profilo esclusivamente statistico e non sotto nessun altro profilo. Capito? Quindi non c'è nessuna persona al mondo che potrebbe farmi dire che qualcuno che è gay è diverso, è malato, non è malato. Però è anormale, lei dice. E quello sì, è anormale perché la normalità, ecco, questo è il punto. Sì. Nessuno potrà farmi dire, neanche loro, sì, neanche i gay. I normali sono loro e io sono anormale, perché no, quello nessuno lo dice. Siamo noi. Poi ci sono anche quelli che hanno disposizioni e scelte, fanno scelte diverse. Ma non cioè lei dice, a me non importa quali sono queste. Scusi, scelte. Professor Bruno, mi perdoni. Mi parla lo psichiatra. Noto criminologo. Psichiatra anche. Psichiatra, eccetera. Allora, lei dice, i normali siamo noi, cioè gli eterosessuali. Le persone eterosessuali. Invece gli anormali sono loro, giusto? Certo, questo secondo la concezione statistica adesso. Ma che vuol dire statistica? Sono statistiche della normalità. Ma la bisessualità è normale o no, ad esempio, professore? La bisessualità, cioè quello che gli piace un po' la patata e un po' invece, diciamo, è una il pene. Assolutamente normale. Normale? Normale. Quello non la bisessualità riguarda soltanto il piacere. Fermo qui. Ecco, fermiamoci un attimo. Sì. No, perché io sto su un taxi. Mi scusi. Beh, chieda se sono a favore delle liberalizzazioni, professore. Devo scendere dal taxi. Dove stava andando, professore? A Roma? Sì, sono a Roma. Ah, ok. A Roma. Scusi, non ho capito allora. Il bisessuale, cioè quello che è a voile a vapeur, come si dice. Come si dice in francese. Ma è bravo, sto Cruciani, no? A vela e a vapore, così si dice in francese, bisessuale. Tanto per chiarire. Allora, quello è una condizione di normalità. E perché mai? E perché, professore? Il bisessuale è normale? Soltanto il piacere. perché riguarda solo te. Se lo può provocare o lo può produrre in mille modi diversi, sì, non significa nulla. Non significa nulla. Per esempio, chi se lo procura con le droghe, cioè chi se lo procura, sì, semplicemente così guardando un film, sì, cioè, sì, chi se lo procura nell'ambito sessuale, sì, e invece chi è solamente omosessuale è anormale, è dice anormale, lei dice. Beh sì, perché se fossero tutti così nel giro di un paio di generazioni, questo mondo non sarebbe più popolare. Beh, ma che c'entra questo? Beh, scusi, che c'entra però? La natura non può creare qualcosa contro se stessa, quindi l'omosessualità per non questo, è contra natura. Per questo, no, certo non è contro natura, nessuno ha mai detto questo. Se dice che non è normale. Una condizione minoritaria, beh, la norma non significa la sua. La norma è fatta del 70%. Ma non è un fatto statistico. Lei, ecco, la cosa interessante, professore, che lei lo mette come un fatto statistico. Statisticamente, in nessun altro modo. Quindi statisticamente gli omosessuali sono normali. Ed evoluzionamente, sotto il profilo evoluzionistico. Ecco, ma scusi un attimo, lei dice evoluzionistico. L'omosessuale è... lo è per che cosa? Per un disturbo di personalità, per qualcosa, per il ruolo dei genitori? Lo è per una serie di condizioni che non sono sempre e non sono tutte di libera scelta dell'individuo. Addirittura? Scusi. Non sempre e non tutte di libera scelta. Cioè c'è una cosa genetica, dice lei? No, sono tante le condizioni. Tante le condizioni. La genetica ci può essere, può anche non esserci. Ci può essere, ma quella che c'è principalmente... è psicologica, educativa, sì, familiare, sociale. Quindi qualche volta è colpa dei genitori, anche, dice lei. Non è colpa dei genitori, è il contesto. I genitori hanno una grande responsabilità, così come tanti altri. Quindi lei è della il professor Bruno è della teoria un po' di Povia, il signor Povia, che diceva Luca era gay ma adesso sta con lei e quindi, cioè, si può guarire, è una cosa da cui si può guarire? Ma si può guarire, cioè si può diventare eterosessuali? Non è nessuna malattia da cui guarire. Si può cambiare? Alcuni possono farlo. Alcuni possono guarire. Altri difficilmente lo fanno. Professor Bruno, lei sa che queste parole desteranno grande polemica, giustamente, nella comunità omosessuale. Ma perché? Mi dimostrino... non vedo perché, capisce? Io non perché lei mi sostiene che la bisessualità è normale, l'omosessualità è, come dire, è innaturale? Questo... No, non sto dicendo innaturale, ho detto non normale. No, normale, appunto, è fuori dalla norma, anormale. Scusi, ma è un genitore che ha un genitore che ha un figlio gay, che succede secondo lei? È contento di solito? Non è contento? Data la sua esperienza. Di solito non è contento. Di solito non è contento. Quindi, però, questo non significa nulla, insomma. Ma lei ha avuto in cura... Sono contenti anche per tante altre cose. Sì, lei ha avuto in cura degli omosessuali nella sua attività? Io non ho mai curato l'omosessuale come tale, però c'è tanta gente si è rivolta a me, fra cui anche gente che aveva dei problemi e che era omosessuale. Non ho mai curati dall'omosessualità. Per l'omosessualità? Vabbè, non mi sognerei mai di farlo. No, vabbè. Che quindi no? Pasolini non è normale. Pasolini non era normale. Quindi Pasolini era un mio amico ed è... genio che stimo di più, a casa mia troverà le fotografie sue dappertutto. Però non era normale Pasolini? No, io lo dicevo, così lo dicevo a tanti altri. Pasolini non era normale? Tipo Consoli o altri. Tipo, scusi? Consoli, Giorgio Consoli. Ah, Giorgio Consoli. No. Quindi, allora, nessuno mi potrà mai far dire che io faccio discriminazioni o altro. No, no, per cui Vendola non è normale secondo lei? No, ma questo non significa che non sia... un ottimo, cioè si può essere buoni, bravi politici omosessuali secondo lei, oppure certo. Sì, certo, perché no? E che ne so, se uno dice non è normale, ma non è normale non significa che quando uno non è normale lei dice un semplice matto, fatto statistico oppure è cattivo, non c'è un giudizio di valore in questa cosa, sì, mentre i bisessuali all'ascolto non c'è un giudizio di valore, però lei dice se tutto il mondo, cioè è vero che lei non dà giudizio di valore dicendo anormale, ne fa una questione quasi statistica, no? Però, solo statistica. Beh, però dice anche se il mondo fosse popolato tutto da omosessuali si estinguerebbe. È una constatazione pure sì. Di me fece addirittura Voltaire, pensi un po'. Addirittura Voltaire. Anche Voltaire può dire sciocchezze. Cioè Voltaire che cosa diceva, scusi? No, io sono ignorante. Diceva proprio questa constatazione. Questa constatazione non significa assolutamente sempre un giudizio, è semplicemente una constatazione. Vabbè. Che spiega per quale motivo la eterosessualità è la norma. Mm. E quell'altra è una parte sempre, una parte, diciamo, dell'universo, che però non significa che non è la parte più frequente, la parte meno frequente. Va bene. Professore, niente, ma non va più dal signor Vespa, non la vediamo più lì, professor Vespa. Cosa volete che vi dica? Facciamo un appello a Vespa, io mi manca, io guardavo sempre. Come no? Mai non va più da Vespa? Ha litigato? No, io. Allora, lui ritiene che gli abbia fatto una scorrettezza che invece non ho fatto. Ah, che scorrettezza, scusi? E quindi, secondo lui, io non avrei detto che ero consulente di parte di un tale che si chiamava Sollecito, no? Ah, come? Beh, era un tale, lo sapevano tutte, lo sapeva tutta Italia, no? Ah, lei era consulente di Raffaele Sollecito nel famoso processo di Amanda Knox. Ma lo sono stato per poco. E andava a ospite dal signor Vespa, e a un certo punto Vespa si è incazzato, ho sintetizzato bene? Sì. Ecco, si è incazzato per questo motivo. Ora, questo lo sapevano tutta Italia. Vabbè, però perché non l'ha detto? Mai fatto. Perché lei non l'ha detto direttamente a Vespa? Ma no, non l'ho detto per il semplice motivo che nessuno me l'ha chiesto e pensavo lo sapesse. Ah, lei pensava lo sapesse. Da quel momento in poi è finita. Quindi lei dice un giornalista come Vespa, cioè, mi stupisco che non sapeva, era l'unico in tutta Italia che non sapeva che ero consulente. Ecco. Esattamente. E scusi, ma poi non avete cercato, cioè non è, com'è finita poi questo rapporto? Com'è finito questo storico rapporto? Ma è finito semplicemente così, non mi ha chiamato più, né io, lui è padrone di chiamarmi o non chiamarmi. Ecco, ma certo. Che cosa le ha detto quando ha saputo questa cosa? Ha detto perché non me l'hai detto? Mi hai fatto un torto? Sì, si è incazzato, ha detto che ero stato scoperto per fare questo. Ma come si fa? No, io mi sono giustificato perché non era così. Ma Vespa non si può arrabbiare, io non ho mai visto Vespa arrabbiato. Poteva apparire così, ma non era così. Ma come si è arrabbiato? Vespa arrabbiato? Com'è Vespa arrabbiato? Impossibile vederlo arrabbiato. No, buonasera, buonasera al pubblico di Porta a Porta. Impossibile, si frega le mani, com'è possibile? Come può urlare? No, è molto, molto, molto. È fumino, è un fumino. Ma dice lui. Vespa, dice ad esempio la parola, ma cazzo, Bruno! No, impossibile. No, Bruno, no, che fatto se, no, se lo dice. No, Bruno, lui si chiama. Bruno. Dice parolacce. Professor Bruno. Senza parolacce. No, scusami, non hai capito. Cazzo. Ah, Bruno, sì, è vero, hai ragione. Bruno. Sì. Stiamo parlando con il professor Bruno. Professor Bruno, sì, vedo. E dice, ma che le ha detto Vespa quando avete litigato, insomma, Bruno? E niente, l'ha detto semplicemente questo. Cioè, sei arrabbiato, cazzo, sì, Bruno! Più o meno l'ha detto, diciamo, con un tono molto... No, ma non è possibile, io Vespa arrabbiato non posso... Cioè, la notizia che lei oggi si è dato, professore, è che Vespa si arrabbia. Ma come cazzo? Ma cosa fa? Parte il campanello di Porta a Porta, entra Mannheimer. Che succede quando si arrabbia Vespa? Che succede? No, non c'è niente di tutto questo. Semplicemente è uno che mantiene evidentemente molti pregiudizi, perché io non ho fatto assolutamente nulla per convincerlo, però gli ho spiegato che dal mio punto di vista non era così. Insomma, si è rotto alcuna via di mediazione. Ma c'è altro dietro, secondo lei? Si era stufato e ha trovato una scusa? Ma probabilmente le persone che dicono la verità, o che comunque ci provano, o che comunque parlano cercando di dire quello in cui credono, non sempre sono... Vabbè, ma al di là di questo, ma secondo lei, Vespa si voleva liberare del professor Bruno, diceva, vabbè, poi ha trovato lo spunto da questa cosa, era già... Diciamo che forse sì. Si voleva... Questo è il mio sospetto. Si voleva liberare di me e ha preso... Anche perché io ho attaccato Berlusconi pesantemente. Ah, ha attaccato Berlusconi su che cosa, scusi? Da un punto di vista psichiatrico, da un punto di vista... Beh, non ho un punto di vista psichiatrico. No, è una cosa molto seria. Cioè, lei ha parlato? Cioè, mi scusi? Il ruolo politico da un punto di vista scientifico. Cioè, scusi, no, mi spieghi questa cosa. La sessualità di Berlusconi, cioè, da Vespa che punto se l'è presa anche per questo, secondo lei? No, penso, immagino che ci sia. Appunto. Ma su cosa? Su cosa? Lei ha attaccato Berlusconi sulla cosa? Dal punto di vista delle questioni sessuali? Di che cosa? No, perché... No. E su che cosa? Dal punto di vista che era un personaggio, secondo me, genio della comunicazione, ma un pessimo politico, non si rende conto di quello. Vabbè, questo siamo, sono critiche normali. Lei le ha espresse in che sede per dar fastidio a Vespa? Le ha espresse in una sede scientifica, però che fu poi ripresa nel Corriere della Sera, in tutta la pancia. E questo ha dato fastidio a Vespa? No, immagino, perché non vedo. Appunto, no, insomma, lei, altro, siccome lei ce l'ha detto. Immagino che sia. Che ne so, ma gli hanno detto, eccetera. Cioè, a Vespa ha dato fastidio. Nessuno mi ha detto. Nessuno mi ha detto nulla. È una sua deduzione. È una sua. Evidentemente è una mia deduzione. Una sua deduzione. Professore, la ringrazio. Un abbraccio, professore. Speriamo di vedere 19:49 800 24 00 24. Allora, Walter, chiudiamo sto discorso sui taxi. No, il discorso sui taxi è semplicissimo. Io credo che sia opportuno da parte sua, visto che è un giornalista, che la prossima volta che parla di qualche categoria, oddio, che comunque ha dei problemi, comunque è. Ma per esempio, l'idea della doppia licenza, no? Di dare a ogni tassista un'altra licenza. Bello. È un'idea dell'istituto Bruno Leoni, dello stesso Capezzone del PDL, eccetera. Sì. Come le pare? Una stronzata oppure una cosa seria? Una stronzata, esattamente. Una perché il lavoro che facciamo con una licenza è lo stesso che faremmo con due licenze, quindi avremmo due macchine da pagare, un dipendente da pagare, tasse da pagare doppie e via discorrendo. Ma doppie, però magari anche, molto gola, anche, ma anche maggiori incassi magari, no? Assolutamente no, ma se la torta è quella da dividersi. Ma non è vero, la torta potrebbe aumentare, se uno viene invogliato potrebbe aumentare. Ma da cosa? Invogliato da cosa? Beh, magari da un abbassamento delle tariffe, dal fatto che si circola meglio, allora, poi non c'è solamente quello, allora, no? Abbiamo una doppia licenza, doppie spese, abbassiamo le tariffe e il carburante continua a salire. Ho capito, non dico che ci... No, scusi Walter, io non dico che ci vuole solo un elemento, è chiaro che poi a quel punto ci devono essere vari elementi che vanno insieme, no? Ma se il mondo fosse un sogno, io gli direi immediatamente a Roma, nel mio caso che ne posso parlare più facilmente, alleviamo le macchine in circolazione all'interno, per dire, del Lungotevere, una zona molto ampia di Roma, allora più taxi, direi ben venga, ma il problema è che le macchine continuano a girare, i parcheggi ci sono in tripla, quadrupla fila. Come si può pretendere che la gente usi il taxi rispetto alla la propria autovettura quando siamo cresciuti? Magari uno può essere invogliato dal fatto, può essere, bisogna liberalizzare almeno le tariffe, liberalizziamo le tariffe. Non lo so, almeno. Perché le tariffe non controllate, un altro per noi saremmo molto contenti, ma non credo che sia una cosa opportuna per l'utenza, no? Beh, qualcuno potrebbe offrire taxi magari di lusso, qualcuno anziché potrebbe avere i Gold, ci sono i Gold, ci sono i Jeep. Già ci sono dei vantaggi, se uno chiama le centrali radio ha la possibilità di ma quelli sono tutte cose che si possono studiare, allora. Ma non parlare di liberalizzazione, ma no, ma una sono... parola che riempie la bocca, bella, liberalizzazione, che bella, tante Z, che bella. Va bene, Walter, la ringrazio, comunque non se la prenda troppo con noi, grazie, andiamo a Alessandro da Milano, buonasera. Buonasera, pronto? Vada. Dunque, volevo parlare di inglesi perché ritengo che abbiano una sorta di saggezza che noi abbiamo dimenticato, in un loro proverbio dicono che la nobiltà parla di principi mentre la servitù parla di persone. Parlare di persone e indurre il popolo a essere all'interno di concetti così privatistici come il loro personale interesse, le loro stronzate, le loro banalità, significa sostanzialmente mantenerlo in uno stato di condizionamento psichico, di però riduzione. La metta un po' più... No, lo so, parli... che sembro professorale, però insomma io di mestiere insegno, quindi che ci posso fare? No, per carità, però che cosa vuole dire? Insomma, per no, io voglio dire semplicemente che rispetto alla questione Rutelli, ad esempio, il fatto che... ecco, perché di quello volevo parlare, però siccome poi c'è stato di mezzo la questione degli investimenti, eccetera, c'entra un po' con gli inglesi. Allora, poi sostanzialmente imporre, non tanto da parte di Rutelli, ma da parte dei giornali, la vita privata di un personaggio pubblico, rendendolo piacione, quando ormai piacione non è più, perché essere allora? Piacione non va più di moda, è una stronzata, non è osceno, capisce? Allora, quindi basta, cioè in un momento di tragedia, in un momento di sacrificio, sacrum facere, chi fa stronzate, chi va in giro e fa i cazzi suoi e li mostra, sta sul cazzo alla gente. Questo per parlare fuori di metafora, insomma, sì, chiaro. Che linguaggio crudo, diciamo, ma è efficace. Vabbè, Alessandro, scusi, però, dunque, partendo da questo ragionamento, lei condanna che cosa? Il fatto che Rutelli e no, lui no, lui non è da condannare. E chi? No, è da condannare il fatto che pubblicando queste cose e continuando a sfrucugliare. Ma che vuol dire pubblicando queste cose? Ma ci sono giornali e giornali. Cioè, lei sta dicendo che i giornalisti non si devono occupare della vita privata dei politici. No, i giornali lo devono fare, però è cambiato il clima culturale delle persone. Cioè, dato che adesso, come dire, al momento in cui c'è un ministro che semplicemente a pronunciare la parola sacrificio si mette a piangere, allora siamo in una situazione di sacrum facere, no? Allora, di fronte al sacrum facere richiesto ai politici, sì, uno che se ne va alle Maldive e fa i cazzi suoi, non piace, tutto qua, capisci? Vabbè, però bisogna distinguere. Non ho capito nulla, grazie Alessandro. Silvano da Bergamo, buonasera, sarà pure professorale, ma non c'è andato alle Maldive. Pronto? Sì. Dov'è il problema di Rotterdam? Mi senti, Cruciani? Sì, sì, vada. Sì, buonasera, ascolti, io voglio fare una nota d'ordine, sono 50 minuti che sono al telefono, per l'amor del cielo. Lei ha ragione, cercate un attimino di aver rispetto anche per... Sì, sì, sì, per carità. Vale anche il braccio a tenere il telefono. Assolutamente, lei ha ragione. Quindi chiuso la polemica immediatamente, no, io venire a casa dal lavoro, ho ascoltato la polemica sui soldi investiti dalla Lega in Tanzania. Sì. Cioè, io personalmente le voglio dire che non vedo nulla di particolarmente negativo in una roba tipo questa. Credo che invece voi ne facciate un discorso artificioso. E malevolo, perché secondo me ognuno con i propri quattrini, che siano poi... Ma anche non sono suoi pubblici, i quattrini, sono del finanziamento pubblico. Sono nostri, i cittadini. Sono appunto i partiti e ognuno ha il diritto-dovere di gestirli come meglio. E no, mio caro! Qua il punto! E no, mio caro! Che siano in Padania, ma che lì la questione non è una questione... a Lussemburgo non è un problema, ma come no, che deve riguardare nessuno. Come no? Mi riguarda e come? Mi riguarda e come? Sono soldi pubblici! I suoi soldi, nessuno le viene a fare le pulci. Ma non sono i soldi di proprietà! Ma non è lo stipendio dell'onorevole Tal dei Tali che ma può investirlo come gli pare? È un contributo che viene elargito a un partito e il partito ne fa quello per fare vuole. Politica, non per fare speculazioni, sì, in Tanzania. Ma mette a frutto per poter comunque guadagnare, per poi metterli a frutto per fare politica. Dov'è il male? Io non riesco a capirlo. Cioè, faccio fatica a capirlo. Cioè, lei dice quei soldi lì vengono investiti in Tanzania, così si guadagnano altri soldi che vengono poi, sì, probabilmente sì, diciamo, visti i precedenti della Lega, potremmo anche dubitarne. No, voglio dire, mi lasci finire. Lei dice quei soldi lì possono essere investiti in Tanzania, dunque se ne guadagnano degli altri per fare la per Padania, fare attività politica alla Padania, per fare attività politica sul territorio. Poi lo sì, vedi legittimo, non è che il fatto che vengano per questo scopo investiti in Tanzania anziché in Padania, anziché in Francia o in Germania. Cioè, io non trovo delle negatività su una roba del genere. Poi volevo dire, adesso non la voglio fare più lunga del solito perché non voglio abusare neanche degli altri. Volevo dire alla signora Polverini, sì, che lei pensi a mettere in positivo il budget della sanità del Lazio. E voglio far ricordare un'altra cosa. Sì. Quando era al sindacato, presentava i bilanci la signora Polverini per comunque sapere come sguazzano i sindacati su questa roba. Ecco, questo mi piacerebbe comunque che non si dimenticasse. Mica andare a fare le pulce alla Lega. Va bene, grazie. Vi ringrazio. Grazie a lei, Silvano, di aver chiamato. Siamo qui 800 24 00 24. C'è Mario dalla provincia di Milano, Maurizio Reggio Emilia e altri ancora. Ma però, che farà però, Malinconico adesso? Malinconico? Che farà Malinconico? C'è un'altra canzone che mi ispira, non è più un sottosegretario. Cosa farà Malinconico? Soprattutto ci sarà un altro sottosegretario. Chi sarà il prossimo sottosegretario alla presidenza del Consiglio? Giallo al governo. Porta via quello che vuoi ma non voltare. Come va? Io tra un integerrimo funzionario dello Stato e un signore che fa... Malinconico a metà. No, qui malinconico totalmente. Dove ha passato le vacanze invece Bersani, dato che si parlava di vacanze? Vacanze chiuso in casa. Bersani, ho passato le vacanze chiuso in casa. Bersani, dove è stato in vacanza lei a Natale, Capodanno? Casa mia, chiuso in casa, e non vorrei che sembrasse una cosa, non so, pauperistico monacale, perché io mi diverto da matti a casa mia. Lei non vive su un atollo? No, niente Maldive, no, questo già lo so. Sono certo che... E poi villaggio, bassa natalità sarda, i pastori vanno con le pecore. Prima tu hai fatto vedere quella scritta sulla Sardegna, che è la regione... Sì, dove ci sono meno bambini, sì. Sì, Ma perché? Ecco, c'è un motivo. Io penso che molti pastori preferiscono, me l'hanno detto, anzi lo attribuisco a te, grazie, abbiano delle relazioni con le pecore, quindi se, no, per sfuggire all'impegno. Sulla questione della liberalizzazione se la dicono di tutti i colori, a parte la questione di Alemanno e del suicidio dei tassisti, tassisti, ripeto, a rischio suicidio secondo Alemanno, noi abbracciamo forti i tassisti, però anche Alemanno abbracciamo la categoria, se c'è bisogno poi di difendere la categoria, non c'è bisogno di utilizzare, non è necessario utilizzare queste cose qui. No, è vero che i tassisti, tra tutte le categorie che devono essere liberalizzate, è l'ultima, cioè non si può paragonare il tassista al notaio, assolutamente no, il tassista non è il notaio è una casta, il tassista non è una casta. Dopodiché che ogni volta che si discute di taxi vengono fuori le barricate e si alzano paroloni, noi ci massacro, bloccheremo la città, tutto a ferro e fuoco, beh amici. Paolo Romani che come dice... Come l'ha fatto il signor Paolo Romani? Aspetta. Ex sottosegretario... No, ex ministro di attività produttive. Liberalizzare le farmacie, con la liberalizzazione delle farmacie qui si muovono le grandi lobby. C'è il pericolo di dare Prozac ai bambini. Questo ha detto il signor Romani. L'ex ministro Romani? Sì, sì. L'ex ministro Paolo Romani. Caro Romani! Puoi ripetere cosa ha detto l'ex ministro Paolo Romani? Ma sentiamolo dalla sua parole. Là dove è stato liberalizzato tutto... In America, in Inghilterra, sai cosa si fa? Ai bambini si dà il Prozac. Vuol dire che in tutti gli ospedali ci sono. Questo succede, ragazzi, ma parlate con gli operatori del settore. Parlate con gli operatori del settore. Serve una ricetta, ma comunque affrontare il Prozac. Certo che serve una ricetta, trovo la ricetta per me stesso e poi lo do al bambino. Ma dai, su! Ma nessuno vuole dare il Prozac ai bambini, libero! Romani! Ma di che parliamo? Paolino! Paolo Romani, su! Caro Romani, non puoi addentrarti in una cosa di questo tipo in questo modo, non puoi esprimerti in questo modo. Nei vari paesi in cui c'è stata la liberalizzazione, i bambini possono acquistare liberamente il Prozac o possono prendere il Prozac, ma non è vero, non io è così. Io vorrei che i grandi giornali americani intervistassero il signor Romani su questa storia qui del Prozac venduto ai bambini in America, ma dai... Bene, in collegamento, non so dove, credo dall'Italia, da Busto Arsizio, dunque il nostro amico Enrico Speroni, europarlamentare della Lega Nord. No, che vuoi, no, che c'è? No, no, che c'è? Francesco Enrico Speroni. Vabbè, la solita cosa. Buonasera. Buonasera a tutti. Come sta? Buona come Padania, sta? Speroni. Buona Padania. Ma perché Speroni? Buona Padania? Che tu, questo non lo dici, no. Tu è una cosa che lo genere, lo dicono. Come va? Buon anno. Buon anno che invece ancora. Buon anno non è l'altro. Vabbè, buon anno non ce l'avamo mai sentito. No, buon anno non è quello di deputato della Lega. Buon anno. Felice anno a Speroni. Ho capito. Senta, come sta? Io sto bene. Ottimo. Bene, tornato da Bruxelles? Sono tornato stasera a Bruxelles e ci torno su domani. Fa questa cosa qua. Fa il pendolare. Sì, beh, come mai questo blitz di è oggi? È tornato dalla moglie a casa, scusa. Io quasi tutti i martedì torno, perché normalmente il mercoledì mattina sì? Non c'è attività. Certo, sì. E quindi, o meglio, se non c'è attività il mercoledì mattina, torna. Rientro il mercoledì sera, perché giovedì invece ho la conferenza dei presidenti di gruppo. Quindi possiamo dire meglio la moglie di Strasburgo. No, di Bruxelles. Bruxelles. Vabbè. Possiamo titolare così, Speroni, due punti, preferisco mia moglie a Bruxelles. Vabbè, è bello. Cosa c'è? Dopo 30 anni di matrimonio invece è molto bello questo. Bello. Più di 30. Ma non sta dicendo questo, tra l'altro. Però sta dicendo che ogni tanto... Preferisce stare con la moglie piuttosto che stare lì a Bruxelles, che poi chissà cosa succede a Bruxelles. Questo sì, di sicuro. Ecco, questo è sicuro, perché Bruxelles è una cosa un po' alla fine... Non è che non mi piace stare a Bruxelles, per carità. Però a Busto Arsizio effettivamente ci sono più persone. Però scusi un attimo, dico, non è un po' un'ammazzata questa cosa qui? Cioè, lei va a Bruxelles quando il lunedì pomeriggio? Il lunedì sì, pomeriggio, mattina, a seconda degli orari. Mattina, poi dopodiché il mercoledì... il martedì, oggi che è martedì, sì, è martedì. E giù. E vabbè, quello sta lo facevo anche quando ero senatore, addirittura andavo avanti e indietro tutti i giorni, ma come? Non dimentichiamo che io per oltre 20 anni ho fatto di mestiere l'aviatore, quindi questo è un dato ormai storico. Se la ricorda quella famosa canzone, no? Per me non è un problema, tra l'altro. Se la ricorda Speroni quella canzone? Sono in aeroporto, quindi ho anche questo vantaggio. Certo, perché lei è vicina a Malpensa, sì. Certo. Per cui, ma chi paga tutti questi viaggi? Voi, lui se lo pagherà. No, che lui paga il Parlamento Europeo. No. Li pago io, poi vengo rimborsato. Certo. Quant'è il massimale ogni mese che si può spendere? No, si possono fare due viaggi a settimana, a differenza dei parlamentari italiani che non hanno limite, io posso fare solo due viaggi a settimana e solo naturalmente o per Bruxelles o per Strasburgo, a seconda di dove ci sono le riunioni. Ah, dunque lei, lei può fare solamente, diciamo, Italia, Bruxelles, Strasburgo, sì. E sì. Non, che ne so, Parigi o... No, assolutamente no. E però può pagare qualsiasi prezzo, cioè potrebbe andare anche in prima classe? No, no. C'è un limite che è la business class, cioè, vabbè, sì. Affari. La business, sì, due viaggi a settimana, questa è la cosa. Quanto spende lei più o meno di viaggi al mese? Ha fatto un calcolo più o meno? Beh, qualche migliaio di euro, sì. Sicuramente. 5.000, 6.000 euro al mese almeno? Sì, sì. Tutto rimborsato dal Parlamento Europeo? Come da dire? Canto, cioè non c'è un forfè, non si può, no? Non pretende che non lo faccia il parlamentare. No, ma non lo so, dice. Si paghi lui i viaggi, perché a questo punto non converrebbe. Non gratis, ma dovrei pagare per farlo. No, ma assolutamente, io non lo stavo dicendo perché uno si deve pagare i viaggi, ma per capire era per capire il meccanismo, cioè mentre i parlamentari italiani hanno, lei so che è un esperto di questa cosa, una volta in aeroporto mi ha dato un malloppo, dice: "Tieni Cruciani, questo è tutto il regolamento che lui è documentato tutto". In Italia mi pare stiano cambiando. Comunque, beh, quando ero pare, io però. Senatore, sì. C'era un numero illimitato di viaggi su tutto il territorio nazionale. Sì. Ecco, invece noi abbiamo un numero di viaggi limitato a 2 a settimana, in casi eccezionali potrebbero essere 3, non so, ci fosse, che so io, un'esigenza tipo un incontro a Roma, una segreteria politica, quello, beh, che è. Che so, 2 o 3 allora. Ecco, la norma è 2. Sì. Poi c'è l'eccezione, ma non l'ho mai usata, posso dire. Ma come, cioè, cosa dunque lei fa? Lei fa in realtà 8 viaggi al mese, questa è la sostanza. No, quando sono a Strasburgo non vengo a casa. Quando è a Strasburgo non vengo a casa. Beh. Cioè quanti viaggi fa alla fine? 6-7, insomma, 6-7. Sì, 6-7, diciamo. 6-7 al mese, cioè, sì, 6, dipende, 7. Poi non è detto che tutte le settimane torno indietro, diciamo la maggior parte, per essere precisi. Però lei mi diceva una cosa una volta, che mentre prima sui viaggi si spendeva di meno, oggi il Parlamento Europeo paradossalmente dopo alcune restrizioni spende di più. Per quale motivo? Lo spieghi un po' agli ascoltatori. Dunque, fino al 2008 non c'era praticamente la regola di adesso. Adesso la regola è che tanto uno paga, tanto viene rimborsato. Sì, sì. Invece prima c'era un sistema come per i viaggi in auto, che c'è ancora oggi, sì. Dove c'è un forfè. Mi pare che per i viaggi in auto si è rimborsati mezzo euro a chilometro. Sì, sì. Ah, c'era un forfè mensile prima, no? No, no, non era mensile, era un forfè a viaggio, diciamo, non so, 1.400 euro a viaggio, sì, sì, basato, sì, sulla tariffa di classe affari, sì, eccetera, sì, eccetera. Solo che poi qualcuno faceva il furbo, cioè faceva il viaggio con i low cost e poi si faceva rimborsare. Ma non è che faceva il furbo, nel senso che il Parlamento Europeo, indipendentemente da quello che uno che pagava, che viaggiava Sì, rimborsava 1.400 euro. Parlo da Milano, poi naturalmente se uno veniva dalla Lituania, uno veniva dalla Canaria, eccetera, certo. Il rimborso era molto più alto. Sì. Ecco, al Parlamento Europeo non interessava quanto uno aveva pagato perché era a forfè. Sì. Adesso, e quindi c'era chi viaggiava con biglietti scontati, chi viaggiava con compagnie a basso costo. Chi non viaggiava proprio? Eh? Chi non viaggiava proprio? Ecco. Questa era una truffa, c'è qualcuno appunto che l'ha fatta. Andava in autostop, ad esempio, qualcuno. Sì, ecco, qualcuno veniva su. Era proprio una truffa. No, però, beh, diciamo, se uno viaggiava con Ryanair, pagava 200 euro, sì, gli rimborsavano 1.400. Ottimo, c'era gente che dormiva anche dentro il Parlamento Europeo. Comunque, no, di questo. Allora, quelli che dormivano è un altro discorso, beh, quello lì è la diaria. Ma diciamo, sul viaggio, a un certo punto c'era questo. Da questa legislatura, quindi sì, sì, dal 2009, sì, sì, a un certo punto non c'è più questa regola, per cui... E il Parlamento Europeo rimborsa direttamente quello che uno spende, ecco, diciamo, secondo te. Prima appunto c'è chi cercava di viaggiare low cost, roba del genere, adesso viaggiano quasi tutti in business. E dunque le spese per il Parlamento sono aumentate, non c'è dubbio. Sono aumentate anche perché i controlli sono aumentati. Io, per dire, oggi per farmi rimborsare sono andato in cassa, ci ho messo mezz'ora. E dunque burocrazia in più, eccetera. Perché eccetera. Devono controllare la carta d'imbarco di andata, la carta d'imbarco di ritorno, certo, il biglietto, eccetera. Prima uno semplicemente presentava la carta d'imbarco, solo quella dell'andata, perché... E prendeva 1.400 euro. Poi tornava, insomma. E uno prendeva 1.400 euro. E uno pigliava una cifra fissa. Quindi il computer aveva dentro questa cifra. Certo, certo. Perché se uno veniva da Milano era 1400, veniva da Roma era 1600. Insomma, maggiori controlli del Parlamento europeo hanno provocato paradossalmente un aumento dei costi per il Parlamento, per quello, diciamo, che riguarda un aumento dei costi, se non altro dei costi burocratici che hanno dovuto assumere delle persone. E probabilmente anche i costi vivi, perché è evidente che se uno poi può viaggiare anche in business, eccetera, costerà più di quello che costava prima. Abbiamo la pubblicità, torniamo subito perché vogliamo parlare della Tanzania, questione della Tanzania. Ah, sì, sì. La zanzara del 10 di gennaio, caro Parenzo. Bene. 20 e 13, 800 24 00 24, che chiedi, scusa? Fino ad agosto va avanti questa zanzara. Eh sì, preparati. Siamo pronti. C'è molta carne al fuoco. Speroni, perché la Lega investe i soldi in Tanzania? E soprattutto, qual è la capitale della Tanzania? Qual è la capitale della Tanzania? Dar el Salaam. È cambiata. Ma lei è molto preparato, però è cambiata, anch'io non lo sapevo. Vabbè. C'è la capitale amministrativa che si chiama? Dodoma e Gomorra. Come Dodoma? Quella era Sodoma, questa è Dodoma. Dodoma. Però anch'io devo dire, la mia prima risposta è stata Dar es Salaam. Poi è cambiata, ma insomma è Dar es Salaam, diciamo la verità. Vabbè, un po' come la capitale della Nigeria è Abuja. Ecco. Bravo. Sì, sì, invece di Lagos, no? Sì, invece certo. Di Lagos. Cioè, la capitale politica, la capitale amministrativa. Insomma, perché la Lega investe in Tanzania? Abbia pazienza. Non era meglio investire a Busto Arsizio, ad esempio, che è più Padania di Tanzania? Ma diciamo, io a suo tempo avevo investito quando il comune di Busto Arsizio aveva emesso quelli che si chiamavano i buoni comunali. Anzi, ce li ho ancora comunali. Perché era un investimento. I buoni di Busto Arsizio. A lungo termine, ecco. Però ovviamente siamo in un sistema globale. Ah, sì, e quindi si può investire dove uno ritiene più opportuno. Cioè, quando parlate di immigrazione, però non è che parlate di sistema globale voi della Lega. No, qui si tratta di soldi, cioè nessuno. Cioè i capitali si possono muovere, le persone no. Sono cose abbastanza diverse, cioè i problemi che provocano i persone, che ovviamente richiedono attenzione, cure, eccetera, non sono quelle del capitale. Il capitale, uno va su internet con l'home banking, trasferisce i soldi di qua di là, non succede niente. Beh, insomma, mica tanto. Degli immigrati, dei familiari, eccetera, qualche diciamo provvedimento va preso, segnato per dargli assistenza, per dargli l'alloggio, eccetera. Lei dice gli uomini possono creare problemi, i capitali no. I capitali non creano gli stessi problemi che creano le persone. E come no? possono creare tanti altri problemi, insomma, come lei sa. Possono creare tanti altri problemi. In Africa si sono finanziati colpi di Stato con i capitali, con i soldi. I soldi possono, quando si muovono i soldi, possono. Non è il caso della Lega, naturalmente. Ecco, ma non penso che ci sia un investimento per finanziare un colpo di Stato. No, ma no, ho capito. Però è un paese intanto non democratico, primo, la Tanzania. No, quindi, come no? Sarà un paese democratico. Ma mica è una dittatura, è stata. C'è un partito unico, sì. Democratico col partito unico, certo, c'è un unico partito. Ma al di là del partito unico, no, insomma, non è un po', cioè, non ci ha trovato una contraddizione in questa cosa qua, a parte i soldi del finanziamento pubblico sfruttati e utilizzati non per le sedi dei partiti, non per l'attività politica quotidiana, che pure la Lega ne fa, su comprare degli immobili sul mitico territorio, ma invece investiti in Tanzania. Ecco, sono investimenti a breve termine, no, pochi mesi, nel senso che Tanzania, Speroni, perché in Tanzania? Gli affitti, la corrente, gas, eccetera, eccetera, però dei soldi ce li ha a disposizione e anziché tenerli in banca, improduttivi, cerca i rendimenti migliori, come penso facciano molte persone. Insomma, non c'è nessuno scandalo, dice lei. Come? Non c'è nessuno scandalo, non c'è nessuna cosa, non c'è nessuna contraddizione, no, non ci trova nulla di tutto alla luce del sole, non è che abbiamo finanziato mercanti di armi o di droga o roba del genere. Abbiamo semplicemente investito in quote di quelli che appunto si chiamano i fondi di investimento, che stanno un po' da tutte le parti. Ho capito, ma quelli sono i soldi del finanziamento pubblico ai partiti, sono non è i soldi che alla Lega, e parte dei soldi che alla Lega ovviamente vengono dal finanziamento, da rimborsi elettorali, altri vengono dalle quote, altri vengono. Scusi, lei dice con i soldi di quel finanziamento noi ci facciamo quello che vogliamo? Ma la legge prevede questo, nel senso, escluse le attività illegali. No, vabbè, quello certo, quello che c'entra. Quando ci sono i soldi, non è che la legge dice i soldi devono servire per forza, ma anche no, se ma lei ad esempio scusi, se... ma li investirebbe ad esempio in un paese musulmano? Ad esempio, voglio dire, se ci fosse un fondo di investimento, non lo so se sia no, ma lasciamo stare la Tanzania, ci fosse un fondo di investimento che rende moltissimo ed è situato in un paese arabo, in uno stato canaglia. Non come? Si sente. Se ci fosse un fondo di investimento situato in un paese arabo che però garantisce grandissimi rendimenti, eticamente investirebbe lei della Lega che dice Padania bianca e cristiana mai musulmana? Beh, allora fondo? Adesso potrei citare Vespasiano, pecunia non olet, no? Cioè il denaro non ha odore. Il denaro non ha odore, quindi uno quando investe guarda al rendimento, ma mi sembra che noi non siamo nella situazione che avete detto voi. Cos'è? No? No, cioè, per quello che riguarda la Tanzania, dice lei. Sì, ma la allora, se ho capito, ma perché molti militanti, scusi un attimo, dire, voi siete razzisti, investite solo che so io in paesi occidentali, sì, o roba sì, del genere. Noi investiamo in tutte le parti del mondo. È la prova dove, che non siamo razzisti, dice lei. Dove le leggi consentono e dove si presume poi gli investimenti sì, ovviamente hanno sempre un minimo di rischio. Di rischio, certo. Ma tant'è vero che mi sembra che Belsito abbia investito in corone norvegesi, cosa che ho fatto anch'io, insomma. Sì, sì. Abbiamo il traffico, torniamo per subito. Dire in dollari canadesi, dollari sì, certo, australiani, dollari. Sì, però sono soldi suoi, non quelli del finanziamento pubblico. Nel continente nero, bonzi bonzi bo, alle falde del Chini Mangiaro, canti con noi! Bonzi bonzi bo, ci sta un popolo di negri che ha inventato l'Alli Galli Speroni! Canti con noi! Non posso cantare queste canzoni. Perché? Perché? Si dice popolo di negri, io dovrei dire popolo di neri, ma tradirei il testo originale, quindi sì. Perché lei vuole essere politicamente corretto. Ecco, io non lo sono perché come del resto Feltri se si chiamava negri non vedo che non è che ha cambiato colore. Dica negri, canti. Canti per le persone in macchina, per le persone che viva cucinano a casa. Viva. La Tanzania è un po' Padania, ripeta con noi, la Tanzania è la nuova Padania. Padania, casomai ci sono degli investimenti in Padania, ma d'altro canto si dice appunto che è opportuno anche investire nei paesi emergenti proprio anche per aiutarli, quindi emergente. Ovviamente non siamo in questo caso un ente di beneficenza, investiamo per trarne anche un profitto, ci mancherebbe pure. Comunque la Tanzania non mi risulta appunto che sia uno stato così poco democratico come dite, tant'è vero che sto vedendo adesso che sì, nella Tanzania è la sede sì, quartier generale della comunità dell'Africa orientale. Quindi però, c'è qualcosa che non dico che è il Consiglio d'Europa o roba del genere. Ma insomma, io non è tra i paesi più liberali, diciamo. Non è un paese come per dire lì vicino c'è quello di Mugabe, lo Zimbabwe. Mugabe, ecco, lì sì che non c'è democrazia, come non c'è. Però non è la patria eccetera, di Tocqueville, ecco, come investire in Sudafrica, per dire. Beh, insomma, no, un po' diverso. Comunque. Mi dicono che la Tanzania è un paese a maggioranza islamica. Beh, quello per quello non è islamica, c'è una parità tra islamici e cristiani. Comunque, ben venga anche il finanziamento agli islamici se fa guadagnare la Lega. Dai, questo si può dire in fondo, su. Ma non è un finanziamento agli islamici, perché poi questo fondo ha sede in Tanzania. Però quando uno investe per dire in un fondo svizzero, poi i soldi del fondo svizzero non è che devono andare per forza alle fabbriche di orologio di cioccolato. Può darsi che magari il fondo svizzero acquisti quote della Chrysler, per intendere. Però se c'è qualche militante, se c'è qualche militante incazzato per questo, perché dice insomma questi soldi qua potrebbero essere spesi meglio, magari. No, allora è qui che voglio fare la distinzione. Un conto è spendere. Allora, qui la Lega i soldi li spende perché, ripeto, abbiamo personale, utenze, eccetera. Questi sono soldi che, ad esempio, potrebbero servire per la campagna elettorale. Ho capito. Qualche soldo lo dobbiamo accantonare, non possiamo arrivare in campagna elettorale senza avere un euro in cassa. Però lì qualcuno solo dice che, siccome la Lega, nonostante quello che si dice, è un partito moderno, sì, ed è amministrata da gente competente, non lasciamo i soldi sotto la mattonella, li investiamo, poi naturalmente alcune operazioni spendere, come fa penso una persona accorta, disinveste e i soldi iniziali più il guadagno dell'investimento li spende in quello che serve. Però che Speroni, scusi, la campagna elettorale, scusi un attimo. Campagna di manifesti, sì, la festa di Pontida e altre però cose. Scusi un attimo, io vorrei dire a quei militanti, ho visto le proteste, sì. Ma non è appunto che i soldi stanno lì e staranno lì per l'eternità. No, ma ho capito, sono certo. accantonati per essere usati quando però, serviranno. Scusi. L'unica cosa è che vengono accantonati dove si ritiene che rendano, di nella più, maniera d'accordo. Migliore. Però scusi un attimo, Speroni. Appunto che il fatto che la sede del fondo sia in Tanzania non significa che siano niente, come ci sono quelle. Ecco, la Tanzania non risulta che sia un paradiso fiscale, ad esempio, ma anche chi investe per dire nelle isole Vergini o nelle isole Cayman, non è che poi i soldi vengono investiti per forza nei Caraibi, vengono investiti in tutto il mondo. No, beh, c'è qualche fondo che ha sede là, però scusi un attimo, caro Speroni, il problema è un altro. Ma non è assurda questa cosa che lo Stato, per l'attività dei partiti, dà dei soldi che poi possono essere utilizzati in qualsiasi modo, anche facendo magari operazioni spericolate? Non dico che questa qua sia un'operazione spericolata. No, anzi, dietro c'è una banca, perché poi non no, ma ho capito, ma lasciamo perdere i dettagli. Quello che si chiama un advisor, cioè un consulente finanziario. Sì, ma certo, non è sbagliato che i soldi nostri, del finanziamento pubblico, soldi dello Stato, debbano essere utilizzati in questo modo. Ma anche, dai, su. Cioè, però, allora, nulla vieta. E magari questo può essere un suggerimento che mi auguro non venga accolto. Per me va cancellato il finanziamento pubblico, per cui modificare la norma dicendo che i soldi erogati dallo Stato ai partiti devono necessariamente essere investiti in certe cose, quantomeno in titoli europei, perché se dicesse buoni del tesoro. Ma no, ma non devono essere investiti proprio, non devono essere investiti, vanno utilizzati e secondo me vanno cancellati. Vanno utilizzati per l'attività politica, non accumulati. Possiamo addentrarci, uno si dice i partiti devono vivere solo delle sovvenzioni degli iscritti, eccetera, ma finché esiste una legge cancellata che dice che i partiti ricevono dallo Stato dei soldi, ripeto, non può dire li devi spendere forza per i manifesti o per i volantini o per pagare pubblicità in televisione o alla radio. E soprattutto non può dirci quando, finché non li spendi, li devi usare in questa maniera. Ripeto, la Lega non è una società finanziaria. Però comunque in ogni caso altre operazioni, semplicemente fatto, anziché mettere i soldi che so io sul libretto postale, sul conto corrente in altri posti, li ha messi in fondo di investimento. Dove in teoria potrebbero fruttare. Dove in teoria potrebbero fruttare. In attesa di usarli, come penso faccia chiunque. Però scusi Speroni, lei ha detto prima la Lega. Oppure può mettere, ecco, voglio fare pubblicità, c'è il conto arancio, poteva metterli sul conto arancio. Adesso facciamo pubblicità. Però il conto arancio. Ma lei scusi, c'ha il conto sul conto arancio? Sì, che non è una banca italiana. Ma allora fatto la marchetta. Ci sarebbe stata una critica. Scusi Speroni, un attimo solo, lei prima ha detto la Lega ha gente competente che sa dove investire i soldi, insomma, da alcune operazioni del passato. Non sembra proprio, qualche problemino, ad esempio, con quei villaggi vacanze lì in Croazia. No, il centro vacanze era una cosa di iscritti alla Lega, ma che non ha Credi Euro Nord. Quello che invece il movimento era impegnato in prima persona era il credito Euro Nord. Sì. Questo sì, è stato un esperimento. Volevamo una banca locale vicino alle piccole imprese della Padania. Insomma, avete fallito, su. Abbiamo scelto degli amministratori che si sono rivelati non solo incompetenti, ma ladri, tant'è vero che sono stati condannati. Ecco, però speriamo che non succeda la stessa cosa con i soldi investiti da zero. Che nessuno della Lega è stato condannato. Sono stati condannati adesso non mi ricordo bene a che punto siamo di questa banca. Scusi un attimo, scusi una cosa, Speroni, le voglio chiedere una cosa perché siamo quasi in conclusione, abbiamo la borsa, ma se lei fosse alla Camera, c'è stato oggi il voto in giunta, voterebbe per l'arresto a Cosentino? La Lega ha avuto posizioni diverse nel passato su Cosentino, adesso che è all'opposizione naturalmente ha preso una posizione diversa. Dunque, adesso non so il passato, perché passato avete tra virgolette salvato Cosentino. Non è l'unico, anche Milanese. Allora, io faccio in Parlamento europeo il relatore permanente, così si chiama, sulle immunità, quindi penso di avere una buona esperienza. Sì, ma voglio dire, lei con Cosentino come si comporterebbe oggi se fosse allora, io da quello che ho visto dagli atti, perché sulle altre cose non mi esprimo perché non ho visto, comunque sono sono posizioni politiche, di diciamo la verità, non è gli atti. Per carità, non mi sembra che ci sia quell'accanimento della magistratura che fa presumere una persecuzione nei confronti del Parlamento. Ma nel passato non la pensavate così, perché più volte, credo una volta nel 2009, quando è stato, la Lega invece ha votato contro l'arresto di Cosentino. Certo. Sì, perché dipende, a volte, perché era diversa la stagione politica, si accanisce proprio in maniera persecutoria contro un parlamento. No, però Speroni, alle 20, caso, alle 20 e 28 non coglioniamo, non coglioniamo, come si dice? Coglionare, sì. Coglioniamoci a vicenda, no? Non coglioniamoci a vicenda. Il punto è politico, il punto è solo politico. Ora, allora, se fosse solo politico, non ci sarebbe bisogno di relazione, niente, si dice si vota e tanto. No, ma è così, prima, che c'è di prima nuovo? Eravate con Berlusconi, se un anno adesso e mezzo non fa, siete più con Berlusconi. Un anno e mezzo fa avete salvato Cosentino, allora, con le stesse carte oggi lo avete. Allora, mi sembra che un certo Papa, deputato, signor Alfonso, certo, Alfonso Papa. Ecco, certo. Mi sembra che la Lega, se ricordo bene, ha votato sì, a favore. E perché sì, a un certo punto era il momento di crisi dell'asse Berlusconi-Bossi e non e la Lega era un momento di crisi, no. Perché allora possiamo dire che un altro indagato senatore tedesco, sì, vabbè, quello è un altro discorso. E quello è stato salvato, usiamo un'espressione vostra, sì, dal Senato. No, però io voglio però dire per, e questo non è del PDL, non è della Lega, è del Partito Lega, Democratico, eccetera. Ma ne abbiamo parlato a lungo, l'abbiamo ospitato il senatore tedesco arrabbiatissimo, il Partito Democratico che poi ha lasciato, eccetera. Ma però voglio dire una cosa, fa bene la Lega, posso dire che io stesso come parlamentare, sì, ripeto, europeo incaricato, sì, di fare relazioni sulle monetà, a volte ho suggerito ai colleghi l'arresto, a volte no. Ecco, a seconda dei casi, quando c'è il sospetto di una persecuzione, di un accanimento giudiziario, ho capito, è opportuno, perché sennò non esisterebbe l'istituto, sì, ho capito, però lei la mette troppo sul piano formale, la mette troppo sul piano formale, mentre è evidente. Ma non è sul piano formale, ma perché sì, spesso deve essere sul piano formale. Io l'ho sempre vista così e ho sempre agito così. Ricordo che io sono stato tra i promotori nel 93 della modifica dell'immunità parlamentare. Bene, abbiamo la borsa, un attimo solo, la borsa. Bene, bene, siamo qui, ultima parte della Zanzara, 800 24 00 24 24 per chiamarci in diretta, e chiudiamo questo collegamento da Busto Arsizio con Enrico Speroni. Francesco, che cosa mangia stasera Speroni? No, io ho già mangiato. Come? Già mangiato? È nordico lei, mangia così presto. Cosa ha mangiato Speroni? Io mangio alle 19:30. Sì. Dunque, ho mangiato del prosciutto. Sì. Crudo? Sì. Prosciutto crudo, sì. Va bene. Bene, e poi? Sì, bene, un po' salato, beh, insomma, vabbè. No, e poi? E poi, visto che parliamo di Tanzania, paese, ecco, ho mangiato dell'hummus che mi sono fatto da solo. Hummus, quindi lei mangia le cose medio orientali, diciamo. Ma a dire il vero, una passata di ceci che mi sono fatto da solo, quindi. Ma sì, un cibo frugale, insomma. Cena, beh, sì, stasera sì. Cena abbastanza frugale. Beh, anche perché ho mangiato qualcosina sull'aereo, quindi. Sì, quindi adesso va a letto alle 10, 9 e mezza. Ma no, 10. Di sotto vado a letto tra le 10 e le 11. Ecco, presto però. Sì, certo, beh, sì, non sono uno che tira tardi. Non va a feste. Ecco, alle tornando cose ai discorsi di prima, se posso. Sì, sì, sì, che è successo? A proposito di investimenti, visto che avete citato ancora la Tanzania, sì, io sì, già nel 1992, che aveva fatto? In Parlamento europeo, sì, avevo suggerito, in cosa? Polemica con l'allora presidente della Repubblica Scalfaro, Oscar Luigi, ma guarda un po', anche lui con due nomi, quindi non sono solo io, sì. E Oscar Luigi, certo, aveva suggerito di non comprare i titoli di Stato italiani. Ecco. Quindi non è che dopo 20 anni noi della Lega abbiamo cambiato idea. La notizia, meglio, ecco, meglio la Tanzania dei dell'Italia bot. Dei bot, questo è il punto, il titolo. Beh, dal punto di vista finanziario può anche darsi. Tra l'altro, se sono andato a vedermi le cronache di allora, anche allora c'era Spadolini che diceva che l'Italia era nella peggior crisi dal dopoguerra, eccetera, eccetera. Sembra di leggere le cose di adesso, insomma. Meglio investire in Tanzania che non i bot italiani, perfetto. Cioè, lei investire dove rende di più, indipendentemente dal paese. A lei non gliene frega niente di salvare l'Italia comprando i bot? Ma non è intanto che si salva l'Italia comprando i bot. C'è l'aggravante rispetto al 92, che adesso i titoli sono in euro, ma penso che oggi gli investitori accorti escono dall'euro. Gli investitori accorti escono dall'euro. Comunque, basta anche vedere il prospetto dell'Unicredit, no? L'Unicredit, beh, voi siete espressione di un mondo finanziario, anche, beh, no? Sì, noi siamo la Zanzara. Adesso dire che siamo nel di un mondo finanziario. Chi voleva sottoscrivere l'aumento di capitale di Unicredit, c'è scritto che ci sono forti perplessità sull'euro. Vabbè, ma quello non è che lo dice solo... Cioè... Quando si usano soldi non propri, come fa la Lega, perché giustamente avete detto, i soldi della Lega non sono i soldi di Bonzi, sono italiani, dei cittadini italiani. Sono tutti i militanti della Lega, e si cerca appunto di investirli al meglio. Dunque si cerca di investirli al meglio. Comunque lei dice... E ripeto, è dal 92 che dico queste cose, anche da prima, quindi non vedo... Più sicura la Tanzania dei bot italiani. Sorpresa, vabbè, insomma. Più sicura la Tanzania dei bot italiani. Dei bot italiani. Vabbè. Grazie Speroni, buona serata. Buonanotte allora. Buonanotte a tutti. Mi raccomando. Grazie. Mario dalla provincia di Milano, buonasera. Mario? Mario è morto, ma Mario. Dario da Reggio Calabria, no, per carità, Dario da Reggio Calabria. Radiofonicamente. Sì, buonasera signor Dario, con questa vocina però. Cruciani a tutti gli ascoltatori. Sì, vada. Senta, io veramente mi corre l'obbligo di spezzare per quanto riguarda il discorso del sindacato, di spezzare appunto una lancia a favore del sindacato stesso. Mi sto addormentando. Con un po' più di entusiasmo però anche. Questa voce bassa, questa voce... Sì. Sì. No, è che sono da tanto tempo in attesa. Lo so, lei si è abbassata la voce. Si è abbassata la voce. Bioccato. Si era un po' bioccato, giustamente. Sì, e niente, quello che mi corre l'obbligo appunto di spezzare una lancia a favore del sindacato per non dimenticare tutti gli anni di lotte, di conquista a favore appunto dei famosi diritti appunto dei lavoratori. Però Dario non ci dia queste cose scontate, insomma, adesso. Lo so, però intanto dobbiamo le corre l'obbligo. Vabbè, Massimo da Venezia, buonasera signor Massimo. Buonasera Crociani, buonasera Parenzo. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Chiamo per manifestare la mia profonda tristezza per l'intervento del professor Bruno. Il professor Bruno. Esatto. Che premesso ha fatto che il professor Bruno? Premesso che sono un sostenitore della libertà di pensiero, per cui credo che chiunque sia libero di manifestare le proprie opinioni in proposito a qualsiasi argomento. L'unica cosa è che l'immagine che ne emerge di chi ci rappresenta poi anche nelle cosiddette trasmissioni mainstream, chi dovrebbe rappresentare anche una professionalità di un certo tipo, poi si lascia andare a dei concetti tristi quali quello della normalità statistica per togliere fondamentalmente il riconoscimento di quelli che sono dei diritti che non portano via niente a nessuno per una comunità che non chiede nient'altro che lei è omosessuale? Di poter vivere tranquillo. Sì, faccio parte della categoria degli anormali. Secondo il professor Bruno. Un'altra cosa che volevo chiedervi è se il professor Bruno ha qualche disabilità fisica, perché prima di esprimere disabilità fisica. Perché allora dovrebbe lavorare un pochettino quantomeno sull'eloquio e sull'addizione, perché sembrava che si fosse vomitato in bocca mentre parlava. No, dai, non diciamo. È un'immagine incredibile. Non era molto piacevole da sentire tutto qua, non volevo... Grazie Maurizio da Reggio Emilia, buonasera. Buonasera, volevo parlare della Tanzania, ma Speroni ha parlato molto della Tanzania. Solo una cosa, i leghisti sono contenti perché il motto dei leghisti è aiutare gli stranieri a casa propria. Sì. Che così non vengono qua. Secondo, i soldi che usa la Lega sono i voti che i leghisti hanno dato alla Lega. E quindi? Quindi il finanziamento pubblico è dovuto ai voti presi dalla Lega. Quindi i leghisti sono d'accordo a fare questo. Se vi piace così. Forse qualcuno è disaccordo, non lo so. Se vi piace così. Non fate più allora, se lei è della Lega. Sicura, e poi comunque sia, è un paese repubblicano, dove non è un paese musulmano, perché sono i buti cattolici e i musulmani, è più o meno il 30% l'uno. E allora? Allora io sono d'accordo a fare un finanziamento, a investire dove Belsito ritiene più opportuno. Signor Belsito, signor Belsito. No, non fate allora più campagne sul Made in Padania. Made in Padania, le campagne quando dicevate non bisogna comprare i prodotti dalla Cina. Sì, vi piace il mercato, vi deve piacere con tutte le sue articolazioni. Non bisogna prendere i prodotti della Cina, aspetti intanto. Se vi piace la globalizzazione, in Italia, che è molto diverso. Se vi piace la globalizzazione, la dovete prendere nella sua complessità, non a seconda di quanto vi fa comodo. Non è un problema questo. L'importante è che ci sia scritto Made in Cina. Questo guarda, è il problema. Allora, se diciamo, arrivano che non c'è scritto Malizia. Sì, ma siccome vi siete sempre scagliati contro la globalizzazione, i mercati che distruggono, i paesi, l'origine, bisogna investire nei territori dove si sta. Ma sicuramente. Allora adesso non tirate più fuori questa storia, perché se... Ma la... come no? Eh no, perché se la globalizzazione va bene il flusso di denaro che passa da una parte all'altra del mondo. Va benissimo, ecco, ma allora... regolare. E allora regolare. Anche i mercati, le merci, tutto. Regolari. No. Regolari. L'importante è che sia scritto medicina. Vabbè. Dopo lei fa quello che vuole. E anche le persone che arrivano dalla Tanzania devono poter venire in Italia, allora. Indubbiamente, oh. Se, c'è lavora, se c'è lavoro. Se c'è lavoro. Se c'è, invece, se c'è lavoro. Se no torno a casa. Se vuole dico qualcosa anche per i taxi a Roma. Che... Vada. No, perché i taxi a Roma è giusto liberalizzarli. Io farei come la Spagna, che i taxi li prendi quando passano, li chiami, fermi e vai. Ma succede anche in Italia. Devi andare in posta... difficile. Bah. Devi telefonare spesso e volentieri. E poi sicuramente bisogna togliere i taxisti abusivi da Roma. No, sì, che è un altro bel anche. Problema. Sì, ma insomma, non è il problema principale a Roma. Ah no, guarda Tiburtina. È per vedere. Va bene. Però... Traffico, torniamo subito. Traffico. Strade in diretta. Circolazione scorrevole sulle nostre autostrade, ma mezzi spargi sale in azione su alcuni tratti, prudenza in particolare sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo, nevica debolmente fra Torni in parte San Gabriele e Colle d'Ara, mentre piogge e grandine si incontrano in A14 nella zona di Val di Sangro. Infine vi anticipiamo che questa notte si lavorerà sulla 3 Salerno-Reggio Calabria, autostrada chiusa nelle due direzioni tra Spezzano Terme e Tarsia dalle 22 alle 6. È tutto, ci risentiamo tra un'ora. La Zanzara. Siamo qui, ma c'è Mario? È scomparso Mario dalla provincia di Milano, c'è ancora oppure è rimasto lì appeso? Mario? Possiamo recuperarlo? Ci sono. Eccoci. Marietto, vada. Come va? Sì, senta, una cosa però, non potete tenere in attesa le persone per tre quarti d'ora sentendo le cazzate di Speroni su che cosa mangia stasera, su chi fa e quant'altro. No, che... allora intervento. No, però distinguiamo, scusi un attimo, distinguiamo sì. Le due cose. È vero che rimanere 45 minuti appesi è sbagliato, su questo non c'è dubbio. Sì. Che poi noi facciamo delle domande su cosa mangia Speroni, quello è un altro discorso. Comunque non era il motivo del mio intervento. Sì. Ed riguardava la liberalizzazione delle licenze taxi. Questi hanno rotto veramente le scatole, non se ne può più. Questi sono una vera casta, al contrario di quello che dice Parenzo, perché non vogliono dividere la torta con nessuno e cerchi di essere un po' meno cerchio bottista, perché appena le si contesta qualcosa lei deve essere anche preparato a ribattere, perché al signor tassista che ha telefonato poc'anzi, una mezz'ora sì, ora fa, dicendo che guadagna solo 1.500 euro al mese, così sì. Si è espresso, dovrebbe ricordare che una licenza taxi costa 200.000 euro, certo. E questo l'ha ricordato anche un tassista milanese che sì, ma l'abbiamo detto anche noi mille volte. Dovrebbe contestare chi è quel pirla che compra un'attività commerciale da 200.000 euro, quindi rileva una licenza da 200.000 euro e per avere un ritorno di 1.500 lei sta sbagliando, ma di sta parla? sbagliando direzione. Allora, allora si può i redditi dei tassisti sono redditi naturalmente e spesso il Sole 24 Ore se ne è occupato. Sì, ma guardi che io sono tendenzialmente favorevole a cambiare le regole del gioco. Perfetto. Sto dicendo che non si sta parlando di gente ricca, non stiamo parlando di gente ricca. Non sono i notai. Cioè, stiamo parlando di persone che guadagnano 1.500, 2.000. Ma ragioni ma cosa c'entra? La licenza serve a parte che la licenza è un investimento, non è che uno a parte che ma è una stupidaggine, chi è che investe 200.000 euro per avere un ritorno di 1.500? No, ma scusi, capito, quando uno avvia un'attività, dice faccio questo investimento, so che me la ripagherò in tot anni. Ecco, in due anni uno si ripaga una cosa del genere. E quello è il loro TFR, cioè la licenza dei tassisti. È il loro TFR. Dopodiché a me va benissimo liberalizzare, ad esempio, non le licenze, ma le tariffe. Quello può essere un'idea. Nascondersi dietro questi argomenti pretestuosi è una fregnaccia, perché innanzitutto distinguiamo, non può essere un TFR, il TFR di un lavoratore dipendente è il loro TFR, è come fosse il loro TFR, no, signore, poi la rivendono e guadagnano 200.000 euro, 150. Anche per questo motivo, perché su quella cifra per la quale quella licenza viene venduta non c'è nessuna tassa, Ha capito? Altro argomento. Vabbè, certo. Sì, vabbè, adesso non stiamo a distinguere. Non è dettaglio. Ma è come quando uno compra un'edicola, no? O un bar, fa un investimento, compra il bar, non è che vendendo 50 cappuccini al giorno se la ripaga subito. Fa un investimento perché no, dice, certo, compro un bar subito. E poi mi rimane la licenza del bar. Ha capito? Ma cosa significa? Non è un TFR quello. Il TFR è un differito. Allora, se il tassista... Ho detto è una sorta, però bisogna pulirsi le orecchie anche. Ho detto è una sorta di. Perché è detto che Sergio Bottista, siccome lei spesso piglia i taxi e probabilmente piglierà anche qualche schiaffo se va avanti a. Allora, io non ho paura di prendere nessuno schiaffo da nessuno. E non faccio la risatina! E non faccio la risatina! È la risatina ironica che fate spesso voi! Non ho bisogno, non ho paura di dire le cose che ho sempre sostenuto, Mario. Non credo che sia una priorità. Poi è giusto liberalizzare, l'ho sempre detto. Non è mai una priorità nulla. Non è l'unica. Farmacisti, notai, le prime caste vere da abbattere sono quelle. Questi non vogliono i giornalisti, guardi un po', le piace? Le gode? Le piace? Ecco, allora basta. Vogliono dividere la torta, si deve cominciare prima o poi da qualcuno, è inutile continuare a dire, e spesso questo è l'argomento che usa Cruciani, dice, il benaltrismo, cominci da lì, va bene, poi verranno i giornalisti, poi verranno gli economisti, poi verranno i notari. Sì, non capiamo, no, partiamo dai notai, farmacisti, avvocati. Lei ha ragione, infatti io non sono affatto contrario a un intervento, bisogna dire naturalmente che tipo di intervento si fa, poi non sono affatto contrario ad allargare il mercato da questo punto di certo, vista. Certo. Sono contrario a tutti i tabù, figuriamoci ai taxi. A me fanno arrabbiare quando i tassisti usano i nuovi ricchi, ecco, quello non c'è dubbio. E mi fanno incazzare quando spesso usano... difendono un fortino. Io ho detto più volte che il servizio deve essere in primo luogo un servizio per i cittadini, cioè chi è da proteggere è l'utente, non sono dei dipendenti. Dopodiché vediamo quali sono le modifiche, in che cosa consisteranno, come sarà allargato il mercato, eccetera eccetera. Fabrizio da Roma, buonasera. Buonasera, allora innanzitutto scusate l'emozione, sono un tassista romano. Sì. Niente, una parola solamente, una tristezza che un radioascoltatore possa inveire così su una categoria di lavoratori. Vabbè, ma adesso ha inveito, ha detto io non sono un santo, io sono una persona che sta stamattina va a lavorare per fare una vita normale, ok? E addirittura qui si parla di schiaffi. Cioè, ma ci rendiamo conto che termini stiamo usando? Vabbè, ma schiaffi, guardi, alcuni leader della sua categoria hanno utilizzato anche parole più pesanti, come lei sa, no? Guerra civile, perfetto. Blocchiamo e tutto. E noi le abbiamo condannate, perché giustamente non bisogna esasperare gli animi. Ma c'è il rischio del suicidio, come dice oggi il sindaco di Roma? Allora, le faccio il mio esempio. Io ho una famiglia normale, due figli e una moglie, giusto? Sì. Ho un mutuo di 460 euro al mese. Sì. Allora, non riuscendo a garantire una normale vita per la mia famiglia, io come mi devo sentire? Cosa devo fare? No, scusi un attimo, a parte che questo pericolo per adesso non si intravede. Secondo, quanto ha pagato la licenza lei? Io l'ho pagata nel 98, 198 milioni, perché nel 98 in milioni. Che modo l'ha pagata? Chiedendo un prestito alla banca, in che modo? Ce l'aveva in contanti, che ne so? No, abbiamo fatto una colletta tra soci e genitori e abbiamo fatto questo investimento. Allora, il pirla, che sarei io, che ho speso tutti questi soldi, l'ho speso perché ero disoccupato. Sì, no, ma questo però, no, io rispondo 200 milioni, ce l'ha speso 100.000 euro più o meno. 198 milioni e di lire. Sì, 100.000 euro più allora, o meno, se non sbaglio. Oggi, scusi? No, 100.000 euro di oggi mi sembra, no? Sì, all'incirca sì. Oggi la licenza, è una licenza taxi a Roma, dopo che ne sono state rilasciate 2.250 con il sindaco... Quanto vale? Quanto 150.000 vale? 120.000 euro. Sì. E su queste 120.000 euro noi paghiamo 19.800 euro di tasse, noi che vendiamo. Poi il compratore ne paga un pochino di meno. Sì. Però non è vero che noi non paghiamo tutti i tassi. Quanto guadagna lei al mese? Io sono un po' più fortunato perché guadagno circa 2.000 euro, ma perché io scambio i turni di pomeriggio con quelli di notturni o di seminotte con i miei colleghi. C'è bisogno di altri taxi a Roma, secondo lei? Guardi, mi dica la verità, lasci perdere il fatto che secondo la vulgata secondo me non è così, più taxi significa meno incassi, ma c'è bisogno di più taxi o no? Assolutamente. Assolutamente no, perché le licenze che sono state rilasciate dal sindaco Veltroni, il 46% in più, sono coincise con la crisi italiana e mondiale. Vabbè, ma lasci quindi perdere le contingenze, le contingenze sono per tutti, non è che solo per i tassisti, per cioè, non ci può essere un lavoro garantito per nessuno, no? E dunque nemmeno per i tassisti, e questo è il punto fondamentale, capito? Cioè io sono vicino a chi lavora e so che i tassisti non sono i nuovi ricchi, però vogliono essere garantiti mentre altre categorie non lo sono. No, noi non vogliamo essere garantiti, noi vogliamo poter fare il nostro lavoro nella normalità. No, ma io lo so, cioè, ma lei mi sta parlando tranquillamente, per carità, una persona molto civile, però sto dicendo che lei mi dice, e poi è arrivata la crisi, vabbè, d'accordo, però insomma... Quella... No, io le dico che con il rilascio smisurato di licenze, okay, d'accordo, nessun settore merceologico, se rilasciano tutti insieme il 46% di licenze, sì, è coinciso col settore della crisi, questo per rispondere alla sua domanda, sì, se servono altri taxi. Allora, dato che ancora noi, da allora, purtroppo, come sì, nazione, come Europa, come il mondo, non siamo usciti da questa crisi, è normale che non servano altre licenze. Sì, però adesso non è che non servono perché c'è la crisi, non servono, lei dice, perché siamo già saturi. Benissimo, bene. Stefano da Bologna, grazie Fabrizio di questo intervento. Tassista romano, un altro che si presenta pronto, come tassista, se pronto, non sbaglio. Pronto, Stefano, pronto. Sì, dica. Buonasera, io già da tanto tempo che vi ascolto. Da Bologna, da Bologna. Buongiorno, si mangia bene i tortellini. A Bologna hanno dato Bologna 40 licenze, ho letto. Qui fra un po' non ci fa mangiare niente. Ho letto, cioè, che a Bologna hanno dato 40 licenze negli ultimi anni, pochissime, 40 licenze. 42 in più, perché vi siete opposti come no, dannati. No, adesso glielo spiego meglio. Va bene? E che mi dice? Scusa, appena lasciato ho scaricato adesso una signora. Ah, bravo. Pronto, allora. Le 42 licenze, quelli fortunati, sì, ma sono poche, dico, negli ultimi 10 anni, no, non mi ricordo. No, signor Cusano, mi lasci fare cortesemente, saranno pochissime, adesso fra un po' ce ne regalo una per uno, sono tutti contentissimi, guardi. Mm. Allora, le spiego, le 42 licenze, il comune non le ha fatto un concorso, i più fortunati le ha vinte, sì, e le ha pagate 150.000 euro l'una. Scusi un attimo, Stefano, però dobbiamo chiudere, è vero o no, questa storia dei suicidi di Alemanno? È verissimo. Come? Cioè, se lei va su internet, sì, a Dublino, negli ultimi 9 mesi si sono suicidati 6 taxisti. Vabbè, ma che c'entra? Siamo mica legato al mestiere di taxi. Dublino, ci sentiamo domani 18:30. Mi raccomando, non si suicidi stasera. Ciao. E ti piace così? Cioè, se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tieni questa roba qua. Ti piace così? Va bene. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.